Dopolus, come cazzo si chiamano, non mi ricordo. Ok. Era il figlio del primo direttore della centrale di Sì, Apeira. Deimos, L'altro era poi il c'è tizio. Giona. L'altro era quello che collezionava i giornali. Esatto, Ci mancava che era Giona, finito sul Catchmall. cliffhanger del. È finita col cliffhanger Dimmi. l'ultimo. Bravo. Il Cliffhanger su nome. cosa? Il nome di. L'altro nome di. Porca di quella puttana, non mi ricordo neanche quello che inizia. Coso del dio del sole? Del dio del sole di Apolliona. Gelos? Ok. Thank you. Prego. No, Quello non me lo ricordavo. non Non era l'aveva quello. detto, E non l'aveva appunto detto. dovevamo Cioè, proprio. il cliffhanger. Infatti. Ah, certo, il suo nome è. Fine della sessione. Il carino Ah, era giusto. ricominciare sta sessione dicendo Apolliona! Oh mio Dio. E la tizia, non mi ricordo come si chiami la tizia. E l'avevamo promesso che l'avremmo portata in questo post. La tizia si chiama Marika. Non credo vi abbiano Marica. detto il cognome. Dubito, però. No, non penso. Ok. Mi prendo il mio bel documento con tutti i miei personaggi del cazzo, perché comunque non è che mi ricordo così bene i dettagli. Tipo il cognome di Marika non me lo ricordo. She's cute. Boh, De Gustibus. Eccoci qua. Allora, non vi ho fatto la descrizione di Marika, ne sono 99% sicuro. Secondo. Siamo a un buon momento per farlo. Os, Allora. stai bene? Sta nella sleep. Sono solo. C'ho la poltrona invece della sedia, sono sdraiato. solo. Ah, ok. No, perché ti vedevo tipo convalescente, hai presente? Cioè, quando No, appena no, esci è da una malattia. la mia normale faccia di sempre. Ok, vado. È alta circa 1,70 m. Ha le scarpe, non so, dei tacchi non altissimi, però c'ha le scarpe con un rialzo, quindi realisticamente senza scarpe è più bassa di 1,70 m. È bionda, porta i capelli mediamente lunghi, quindi non lunghi fino al culo, però come me. Pelle abbronzata, nel senso il colore della pelle olivastro, direi più vicina ai turchi che non agli occidentali. Occhi scuri, cioè capelli biondi, occhi scuri. Vestiti molto eleganti, l'avevo già detta sta cosa, sono sicuro. Quelli di voi che notano questo genere di cose, i suoi vestiti sono di marca, diciamo che esistono. Come nella realtà delle industrie tessili molto raffinate che producono vestiti con un taglio speciale, ci sono sia quelle fatte con le macchine a base di mano, sia quelli che le cuciono in maniera tradizionale. Le robe tradizionali ovviamente sono elitarie perché costano molto di più da produrre. Questi sono vestiti chiaramente fatti da una marca che li crea cucendo a mano come si faceva una volta, quindi vestiti chiaramente costosi. Porta la spilla della Zenith Auster, tutti e tre hanno la spilla della Zenith Auster e hanno questa bella cosa per cui si capisce il loro atteggiamento nei confronti della scuola da come portano la spilla. Cioè, Deimos la porta sul petto come lieto, in bella vista. Iona la porta sulla giacca ma non in cima, cioè quindi in un punto della giacca, si vede ma non è la prima cosa che vedi di lui. Marika la porta in un punto tipo attaccata al bordo della giacca dove non si vede, cioè devi proprio tirarla su per vederla, altrimenti sembra un bottone di riserva. Come dicevo, tutti e tre in realtà sembrano essere benestanti, cioè hanno vestiti eleganti, anche quelli un po' più strani, caratteristici dallo stile di vestirsi, si vede che sono abiti di un certo livello. E lascio a voi le deduzioni su questa cosa. Boh, se vi interessa, quelli di voi che notano queste cose hanno tre accenti diversi. Cioè, Deimos ha lo stesso accento che aveva il professore, che è della zona rurale, diciamo, di Achaies. Quindi, in realtà, nonostante sia elegante tutto, se uno va a spacchettare in quattro il suo accento, la cadenza più che l'accento, è quella di un provincialotto maledetto. Iona invece ha l'accento non di Apeira, ma comunque l'accento delle città, quindi una roba non rurale, diciamo. Facciamo un paragone con le città italiane? Bergamo anziché Milano. Beh, dai, sta parola, Wow. sta parola. Marica invece ha un accento orientale. Non credo che nessuno di voi sappia un cazzo su sta cosa, quindi semplicemente la lascio così. Cioè, se parlasse in dialetto, parlerebbe proprio un'altra lingua. E questo si ripercuote nel modo in cui parla. Continuando la metafora che ho fatto prima, Trieste. Se parla in dialetto, parla in croato e non si capisce un È cazzo. Vurdalak. La Gotcha. lasciamo così. Gli altri non hanno capito e va bene lo stesso. Vi dicevo, lei ha spalancato la porta dicendo: ragazzi, ci sono. Ha richiuso la porta e quindi nella stanza ci siete voi tre. Adone che è in un angolo a contemplare l'immenso e loro tre che boh, stanno conversando. Anzi, a parlare in questo momento esatto è Iona che dice: Apolliona. Chi è che l'aveva poi richiesto? Nessuno perché era Eri finta la stato sessione. tu, Vito? Eri stato tu, Ica? È stato io a chiedere l'altro nome di... Sì, è stato io. Non ricordo perché l'ho chiesto, però avevo un piano. Lo distraggo. Distraggo l'Israel. No, è perché prima è stato interrotto e quindi non ero riuscito a finire. Dopo tu gli hai richiesto, non lo vogliamo sapere. Sì, ma lo stavo chiedendo, avevo una ragione per chiederlo, c'era un ragionamento dietro a questa cosa. Non lungo, non complesso, ma non mi viene restituito dall'eminenza grigia. Ah, oh, Eddie non pervenuto, sono le 40. Iniziamo. Comunque con Adone avevo discusso della potenziale idea di rivelare a loro che lui ha la malattia per vedere se riuscivano a trovare una cura, usarla come cavia viva, visto che cercavano una cavia viva. Meno male Stato quel quello il discorso discorso. lì, sì. Sì. Osso, tu vuoi divulgare questa cosa agli altri membri del gruppo? Ovvero? Cosa? Non ho E capito. del fatto che appunto hai avuto questo pensiero. Cioè, perché ti spiego, o mi parte per la sua tangente. Ma per ora ne avevo parlato soltanto con Adon, l'avevo preso da parte e basta. Anche infatti. perché eravamo lì durante il discorso con tutti, cioè, è un po' difficile prendere tutti singolarmente e andare, cioè, un Infatti. po' out of character. Sì, quello sì, è complicato. Stavamo appunto risolvendo il puzzle, l'enigma, e se non sbaglio c'era Marika che ci aveva aiutato un casino, ma non mi ricordo la risposta. Hai No, notato la risposta? infatti, no, non... non... Infatti, ok, perfetto, no, perché sennò me la sarei ricordata. Oh, idee! No, non c'era stata data la risposta perché era Marika quella scettica su... No, non era Marika quella scettica sul... Che diceva che le divinità non esistevano, quindi non era... Quello era Deimos. Era Deimos, ok. Bellissimo, Deimos. E lui che stava bloccando la risposta. Comunque, E quello... Dica. sì, il recap velocissimo era più complesso di così, era che siete arrivati a dire la differenza tra un anno divino e un anno terrestre. Sì, che Solare. noi nel mondo qua contiamo con l'anno lunare e l'anno divino sarebbe quello solare. Loro non avevano detto questo, cioè era rimasta ambigua sta cosa qua. Cosa... No, cioè nel senso lo stavamo deducendo noi. No, no, no, loro hanno... Allora, pausa. Allora fanculo. In Faithless si usa l'anno solare, cioè è uguale al calendario gregoriano con tanto di anni bisestili e stronzate varie. Ah, ok. Ho capito L'anno male allora. lunare forse era utilizzato nell'antichità, però cioè, era partito forse questo discorso dal fatto che loro c'erano un'amica archeologa, che quindi, a cui piace l'archeologia, non archeologa, che forse sa meglio queste cose. Gliene avete parlato, se non sbaglio, e lei vi ha detto che non sapeva un cazzo. Sì, infatti c'era stato detto che non sapevamo un cazzo di niente. E la cosa che ci rimaneva da determinare a questo punto era la lunghezza dell'anno divino. Che secondo me, appunto, cioè, è uguale. Facciamo agli induisti 3000 anni. Figa. Sì, è il ciclo divino che durava 3000 anni. La religione induista. Il problema è qua come funziona, cioè un anno divino può essere tranquillamente un anno umano, che cazzo ne so. Bisogna andare a chiedere a un prete a questo punto, a una persona. Il nostro amico prete, dai, così andiamo anche a controllare come sta, povero Cristo. Per lui sono passate un paio d'ore, 3 ore, È quattro al vero, massimo. è vero. Esatto, alla fine è ancora vivo e vegeto. Avete lasciato 4 ore un cristiano con Ora da solo. Ce l'ha detto ora che Sì, poteva che non c'era parlare. problema. Io mi fido di questa donna, Fatto mi benissimo. fido. Vabbè, doveva curarlo, tipo, il prete era più Posso di là che di indagare qua. mezza chiesa? Mezza chiesa. Sono matto, me lo ricordavo bene. Io direi che a sto punto sì. Andiamo da lui. Sperando che sia sveglio. Allora, avevate già parlato con i ragazzi di cosa volevate fare e dovevate decidere se spiegargli cosa cazzo era il puzzle o no. Marika era interessata e gli altri due no. Cioè, gli altri due Erano tipo Yeah, sure, Folktale. Deimos straight up. Iona si annoia abbastanza che potrebbe anche joinare, ecco. Il problema era se dare loro le informazioni su dove si trova. Sì, Almeno per esatto. quello manca l'agency di Adone, I guess. Infatti. Sì. Quindi facciamo che non sta lì nell'angolino e ci pensa. Parli il Yeah, diavolo! Parli il manca diavolo! l'agency di Adone, stavano dicendo. Esatto. Non ti sentiamo. Tranquillo, non sentiamo un Pronto? cazzo. Prova ancora? Vabbè. Mi Vai, vai, vai, sentite? funge, funge, funge. Ah, ok. Cos'è Agency di Adone? E niente, devi, alla fine della sessione devi fare una scelta tu. Oddio, in che senso? Niente, la droppiamo veloce. La dobbiamo veloce. Devi fare una scelta, sì o no? Tu lo sai per la domanda. No, so già qual è la domanda. Se devo sacrificarmi per convincere i tipi a darci informazioni? Bah, Pochino. quasi quasi. Potrebbe essere anche quella. Pochino, pochino. Cioè, 98% d'ero. No, vabbè, dai, qual era la domanda? Che cazzo di scelta devo fare? La domanda era quella, solo che quello che No. mancava è che diventi una cavia umana. Perché il Ah, punto era vabbè. tipo Sì. o prendo le informazioni riguardo Adone oppure gli diamo la posizione Del del tempio. puzzle dove si trova. Qual è il rischio più grande dei due? Accompagnare al Ah, tempio. quindi ne avete. Scusatemi, scusate un secondo. Cosa avete fatto fino ad adesso? Niente. No, niente. Recap. Recap e basta. Scusate. Ok. Ricordi com'è finita l'ultima sessione? No. La sessione è finita che Lieto chiedeva come si chiamava la divinità antica del sole e Iona dice, ah certo, si chiamava e finisce la sessione. Ah, Ok? La sessione di oggi ok. comincia con lui che dice Appolliona e non è Ah, successo ok. nient'altro. Perfetto, perfetto. Allora, il punto è che la mia risposta sarebbe anche sì, però credo che dobbiamo un attimo rollarla sta cosa, perché dire sì così a cazzo non mi sembra No, no, sensato. no, è da Io rollare. Nibel ne aveva parlato con te, però era in privato. Eravamo, cioè, ti ho preso da parte riguardo a sta cosa. Quindi gli Eh sì. altri tecnicamente non lo sanno. Appunto. che poi alla fine di quel discorso in verità Adone aveva detto no, io adesso ripensandoci, considerando altre cose, dico di sì, quindi bisogna un attimo riparlarne. E ok. Vabbè, io parlerei comunque, non ci vedo niente di male nel rendere partecipe Marika del nostro bel puzzle. Sì, Eddie, uno dei personaggi si chiama Marika. Sì, sì, lasciamo stare, ho avuto un flashback. Beh, immagino che una promessa sia una promessa, questa è Misk che parla. E dove cazzo è che l'avevamo trovato? Sotto al tempio di... Okay. Al tempio di... Di Ruapera. Di Apera, ok. Grazie. Quindi gli stiamo appunto snicciando il tempio? Stiamo snicciando il reperto archeologico. Esatto, cioè non avete detto nulla a Mifra, quindi insomma Mifra aveva detto per farla stare zitta dalla nostra parte che avrebbe promesso informazione di quel tipo e quindi adesso gliela sta dando. E abbiamo trovato un tempio sotto il tempio di Diru, qua davvero. Come vi l'abbiamo dicevo, trovato qui. Tre reazioni diverse. Marika sorpresa. Deimos non ha mai sentito una cosa di cui gliene freghi meno nella sua vita. Vabbè. Yona è tipo... Basta, nessuna... non dice niente, è tipo... E basta, su questa posizione. Okay. Thinking emoji. Mi sta prendendo la cam? Direi proprio di no. No, sta caricando a vuoto. Perché non l'ho collegata. Adesso tu. Wow. Potrebbe servire collegarla. Quindi sì, insomma, l'abbiamo trovato lì. E niente, l'indovinello che vi abbiamo detto poco fa è scritto sui muri del tempio. Yona Amarica. Ti dice qualcosa una divinità degli indovinelli? E Marika. Tra le leggende scati c'era qualcosa del genere, ma qui da noi non mi pare. Quindi credo che vorrei vederlo. Bisognerà fare un'offerta al tempio e poi chissà, magari se funziona potrebbe essere ricerca in più per tutti e tre. E l'offerta non deve essere un malapenne, a quanto pare. Just saying. Devono essere soldi. I tre si guardano tra di loro, poi vi guardano male. Questa volta tutti e tre, tipo, avete dato un manapenny alla divinità del denaro? Yeah, I did. Quindi dico lieto. Non lo sapevo, non c'era scritto niente. Di nuovo tre reazioni diverse. Deimos dice ad alta voce, sono stronzate, sono superstizioni. E altri due sono tipo... Ma per curiosità, ecco, quale sarebbe il problema? Yona prende la parola e dice: ma se vai a leggere i libri che sono pieni di storie del genere, la divinità viene proprio a prenderti di persona. Allora non c'è problema. Sarebbe comodo se quei libri li mettessero davanti al cesso delle offerte. Sì, almeno possiamo discutere di questa cosa di mettere o non mettere i cartelli nel cazzo di posti dove vanno. Marika, il genere di persone che fa offerte a cazzo alle divinità non è lo stesso genere di persone che non li leggerebbe quei libri, quindi non così utile. Io l'avrei letto il cartello, non il libro. Infatti tipo Myth Bombastic Side Eye. Madonna che fa questa faccia così. Quindi dice Marika: devo fare tre voci diverse, ma non ce l'ho ancora, quindi scusatemi. Faccio le istruzioni ogni volta. Usa l'intelligenza artificiale per... Ah, vabbè, c'è il voice... Vabbè. Ci rivediamo direttamente là? Come vuoi, se vuoi... Mif guarda gli altri. Domanda: in che momento siamo della giornata della nostra vita? Dopo pranzo, come vi tra le 2 e le 3. Ok, abbiamo un motivo per non farla venire con noi? Vabbè, parla un attimo in privato fra di noi. Adone a questo punto dice, prende la palla al balzo, dice magari possiamo incontrarci là, noi abbiamo ancora una faccenda veloce da sbrigare e poi raggiungeremo subito il tempio. Meglio, così ho il tempo per fare gli studi che dovevamo fare oggi. In una mezz'oretta ce la facciamo a farli, no? Dobbiamo studiare un libro di 900 pagine. Nessuno di noi tre ha la spell per leggere i libri. Ma dai, 300 a testa, ce la facciamo, ce la facciamo. Una cosa, se posso. Che questa discussione rimanga qui tra noi. Sure. Deimos fa sì con la testa e Yola invece è quello che ti challenge e ti dice... Perché? Prima, se ci sono problemi, scoperte o robe del genere, dobbiamo accettarci di alcune cose e poi eventualmente le informazioni verranno rese pubbliche. E poi la scoperta così rimane a voi. Non avete problemi di persone che lo vengono a sapere prima che vi rubano la scoperta, ecco. Insomma, un campo accademico. Mi fai seggiare il tuo antiaperto? Yes, cucciolo. Persuasion. Non è vero, perché devo fare launch game? 10 secondi, sì. Mi fai io... persuasion. Sei Sara, io mi sono persa questa parte. Niente, stanno cercando di convincerli. Posso aiutarlo in qualche modo, visto che ho iniziato il discorso? Posso dargli propizio. Senza... E dagli sto prepuzio. Altre cose mi sa che non ce le hai. Il preferito. Forse c'è anche bel paglione Eddie, comunque. Dai, sembra un accademico. Non fare uno, Adone. So che farai uno, ma ti prego, non fare uno. Dai, ce ne hai due. Sembra di... Dai! C'è un altro dado. Devi tirare un altro dado. Sponsorizzato da Nibiru. Sì! Che fatica, eh! Io l'ho chiamato, ragazzi. 11, work up, sopra il 10, quindi funziona tranquillamente. Cioè... Non è che li hai convinti ad andare contro tutto quello in cui credono. Però, gli sembra valida come argomentazione. Tipo, ci sta, è razionale, non abbiamo motivo immediato per darti contro, quindi per il momento non hanno motivo di snicciare. Annuiscono e voi vi sembrano, cioè, a voi vi sembrano sinceri. Tutto qua, non c'è altro interaction. Deimos dice, io... studierò con voi e poi vado a lavorare per la Mukelos. Divertitevi a fare gli archeologi. Ah, Deimos, magari più tardi nella serata hai un momento? Sì. La sera il dipartimento di ricerca è chiuso. Ottimo. Incontriamoci dove vuoi, desidererei parlarti. Picchietta sul tavolo, era ancora seduto lui. E... Quanto conosci bene la città? Si gira verso Nibel. Quanto la conosci bene? Non ho detto niente. Non ho detto niente. Scusate. Ho un buon chaperon. Ok. C'è... una locanda a pochi nella città alta, a pochi un chilometro di distanza dalla scuola di magia. Si radunano gli studiosi, quindi non daremo nell'occhio e possiamo parlare di quello che vuoi. E ti lascia il nome, non ce l'ho pronto, però saranno nomi del cazzo greci, quindi lo chiamiamo il granchio lanciere. Ti piace come nome? Me lo sono inventato adesso. E come insegna a non granchio con una lancia. Vedete che i granchi la fanno sta cosa di afferrare le robe e ammazzare le robe col coltello. Esatto. C'è un videogioco intero su sta cosa. Vedi? È vero. Al Lancer Crab. Bello, in inglese suona meglio. Che in tedesco. Mi annuisce leggermente con la testa. E niente, si fa... per alzarsi. Boh, siete d'accordo di reincontrarvi al tempio di Ruapeira, che non è esattamente un posto dove non trova, cioè sovrasta tutta la cazzo di città, è enorme. Non sapete, pare che Crono l'abbia mangiato, forse. Sì, avete mangiato nella piazza della scuola. Ah, giusto, la mensa. Sì, sì, sì. Sì, sì, è vero. E... bon, io... vi salutate, se non volete dire altro. Sì, direi di sì. Ok. E direi che è il nostro momento di... vedete, quindi. Ci salutiamo e... ci vediamo dopo. Esatto, a Marika infatti ci fa, ci vediamo più tardi. In maniera anche abbastanza seria, distaccata, vi salutano, uscite dalla stanza, siete nel grande corridoio del dipartimento di magia naturale, arrivate dalle, stavolta alle spalle della statua che vi avevo descritto all'andata, e boh, se volete uscire uscite, se no ditemi cosa volete fare. Vogliamo andare prima dal prete, dal sacerdote. Beh, se riusciamo a risolvere il puzzle, non sarebbe male. Potremmo chiedere anche direttamente alla sacerdotessa del, del tempio di Dira Peir. Ah, anche? Okay. Vero. E... cosa succede però se... troviamo la soluzione prima dell'arrivo di Marika? Non so se sarà una cosa così veloce, ma forse, forse è meglio. Possiamo lasciarli lì, I guess. Se la troviamo prima vuol dire che non ci serviranno più. Esatto. Seems fair to me. Fair. D'accordo. Perfetto, quindi andate di corsa verso la, la chiesa di Yelos, giusto? Sì. Non andiamo dal prete... ah sì, la chiesa di Yelos. Sì, sì, sì. No, da Yelos o andiamo quella di Ropeir direttamente? Esatto. Hai andrei anche da quello di Yelos. Ma che dobbiamo fare da lui adesso? È chiedergli la differenza tra un anno divino e un... eh sì, però il fatto che se, cioè, è una sacerdotessa anche la tizia del, di Ropeira, infatti... quindi penso che abbiano la stessa informazione entrambi, credo. Andrei da lei perché... potremmo fare lo stesso richiedere a tutte e due, non sa mai però. Esatto, perché non... rischiamo di arrivare dopo, dopo Deimos e gli altri al tempio di Ropeira, anche perché sono lontani mi sembra i due. Sì. Ma allunghi un pochino la strada, ma non tantissimo. Beh, possiamo andare lo stesso, cioè alla fine non ci costa niente chiedere a entrambi. Stiamo facendo di corsa. Esatto, sì. Yes, se, se vogliamo essere sicuri, però boh, non mi sembra necessario proprio lasciare indietro questi nel caso, ecco. Cioè, male che vada lì si ammazza. Lo dici seriamente? Lieto? Ce li li ammazziamo, taglia, taglia il discorso prima, tipo, male che vada, li sistemiamo. Ma non è che ti guarda così. Bellissimo mafioso. Esatto, tipo Biff che fa shake her head, tipo. Sono un sacco di colonne di cemento da riempire. Ok. Un sacco di colonne di metallo. Monsese. Uscite dalla, dall'edificio e fuori... che sta guardando in direzione opposta a voi, c'è la donna di prima che avete incontrato quando siete entrati. Sta chiaramente fumando, cioè c'ha il fumo che le esce dalla bocca, anche se vi dà le spalle, vedete la, la nuvoletta. E ditemi voi se volete fare qualcosa, altrimenti andate avanti. Lei è la l'attuale presidentessa centrale, lei? Sì. Ex, okay. Oddio, non so se l'ho già detto, quindi mi fermo qua. Di sicuro sì. Vi hanno detto che è la ex, che è l'attuale direttrice della centrale. Sì, questo si sa. Ex di cosa? Non lo so. Esatto, non lo sapete. No, ma l'aveva detto qualcosa. Aspetta, no, vabbè, guardo io. Qualche roba ce l'avevo. Devo riprendere a fare gli appunti. È un mondo sì, dovresti. È un mondo questo dove non esiste il conflitto di interessi, eh? Cioè, una persona può fare tutto quello che vuole contemporaneamente e nessuno gli dice nulla. Allora, ex ex rettrice della Zenith Auster e Esatto. attuale Ah, direttrice sì. della centrale di Cavolo, Romana di Apeiro. ok, Era questo. sì. Ottimo. Mi sono pensato, ma era un ex militare, non mi pare. Vi posso dire in più che i mandati da rettrice, da rettore, hanno una durata fissa, di 5 anni o 4 in base alla scuola di magia. Cioè, ogni scuola di magia ha i suoi regolamenti, comunque non sono a vita. Ogni 5 anni si sceglie se rimpiazzarli o meno. In genere, se uno vuole rimanere, rimane. Soprattutto in quelle un pochino più provincialotte, diciamo. La Zenitai cambia ogni 5 anni, cioè non c'è verso. Però nelle altre invece ci sta che ci Quindi, sia un regno. no, nel senso, non è stata una sua scelta quella di cambiare lavoro. No, è stata una sua scelta Sì. quella di non essere più rettrice, realisticamente. Cioè, se voleva continuare, continuava. Ok, Mentre, magari tipo, sì, mentre cioè, un po' se... come gli americani con i presidenti, cioè magari 5 anni non lo fai, ma poi puoi riprendere. Esatto. Solo che lì hanno un limite di due, qua non Due esiste un limite. mandate. Esatto, quindi. E puoi Ok, anche ci sta bene. essere rieletto. Cioè, è strano, tipo alla Zenitai è strano che tu faccia due mandati di fila. Nelle altre invece non è nemmeno strano. Poi dipende da ogni scuola come è gestita. Dico le informazioni che so agli altri, dico tecnicamente dovrebbe avere più di 70 anni, nonostante chiaramente non li dimostri. Domanda, se io faccio horoscope, lei lo sente? Cioè, è una magia che se poi lo faccio sull'altro. Horoscope impiega un minuto, quindi devi stare un minuto ad osservarla. E di base, la persona su cui la fai, se tu non gli modifichi le spell, non la sente. Se la persona è in grado di percepire la teurgia, si accorge che stai castando una teurgia, non si accorge che tu stai castando una teurgia su di lei. Ok, proviamo questo gambling. Cazzo l'oroscopo. Ok. Nel frattempo, di quegli altri, dalle voci che ho sentito, sembrerebbe che abbia le mani in pasta un po' dappertutto, sia in politica che nell'esercito. MIF. Così. Sì, arrivo. Non richiede tiri Horoscope. Sono sicuro che ce l'avevo l'immagine della Mukelos, però non la ritrovo. Che palle. Cazzo è nascondersi? Ho più zero. Sì. Bene. Ho fatto Vedi? malissimo, però scusami un attimo, Bianice, cioè io lo faccio quando lo faccio in mezzo agli altri, nel senso mentre stiamo parlando Facciamo un faccio attimo un qualcosa. po' a cerchietto, dai. Tipo, cioè stiamo facendo finta di parlare, insomma, può Non si darmi capisce chi di qualcosa. voi la stia castando, ma una persona trained è in grado di percepire che ci sia una teurgia. Infatti, si gira e ti guarda. In quel momento Horoscope finisce il cast. Quindi tu stai guardando lei sta guardando te, e tu vedi la lista delle sue spell, come da... Sì. Ok. Conosce un numero di magie naturali elevato. Cioè, non so se ti posso dire sta informazione, quindi te la dico in maniera generica. Conosce una dozzina di magie naturali. Fai il paragone con i maghi che conosci, quante magie conoscono, e puoi dedurre di che livello è. Le magie naturali che conosce sono tutte regolari, ce n'è un paio che sono strane, ma non sono unheard of. Cioè sono magie ibride di due scuole di magia combinate, ma la maggior parte sono proprio quelle da manuale. Con 12 credo che ce l'abbia tutte, in realtà quelle utili. Se vuoi ti faccio la lista esatta. Però... Immagino che tu Oh, avessi fatto sempre Horoscope per vedere se conosceva delle spell strane. sì. Non conosce spell strane. Ok. A parte quelle due che ti ho detto che sono ibride. Però sono strane nella misura in cui uno che studia in una scuola di magia ci sta che ci abbia roba del genere. Ok. Se tu trovassi un contadino che ha queste spell, saresti legittimata a dire non è normale questa cosa. Ovviamente, ovviamente. Miff semplicemente distoglie lo sguardo molto in una maniera naturale, proprio, è come se tipo stesse guardando questa persona e poi si gira, banalmente. Cioè. La signora mette la sigaretta dritta, la lancia, una direzione a caso e non verso di voi. E verso di voi dice: Posso aiutarvi? Adone si gira e dice, cioè, chi la guarda dice, ah no, stavamo solo parlando fra di noi. Lei è la, com'è che si chiama, poverina? La... Alexandra Mukelos. Mukelos. Sì, Alexandra Mukelos, giusto? È corretto. La pensavo più anziana. Ma no! Cioè... Adone si gira e dice... Comunque vedo che gli anni li porta benissimo nel caso, aggiunge niente. Esatto, bravo. Mi scuso per il comportamento dei miei compagni, la volevo solo salutare, sono anche un ricercatore di magia naturale e la sua fama la precede. Da dove vieni? Da Falchena. Conosco il direttore della centrale di Falchena. Anche lui di magia naturale. Lo conosci? Sì, è mio marito. Ah, affascinante. Mm-hmm. Portagli i miei saluti. Certo, sarà fatto. E beh, comunque non volevamo disturbarla. Andiamo? Mi giro verso gli altri come per dire, andiamo. Arrivederci. Mentre sta andando via, quasi tra i denti, sembra sussurrare una cosa proprio per Adone, che suona come: si vola più con le spore che con le ali. Wow, è un affronto questo. Bitch, adesso le tiro un pugno, porco Dio, facciamo un bot, vediamo chi è che vola di più. Io perché volo, perché lei mi fa sparare, mi spara chissà dove. Che ha appena letto la lista di spell di questa persona. Sì. Esatto. Tipo di piede con tutta la forza. Esatto. Di volare, no, io non buono. No, ma io sono più pesante perché sto tentando di metallo. Mi un po'. Vabbè, sta rotiscendo i denti. Vabbè. È vero. Fai un po' di polverina addosso a lei. Ne sborro in faccia a sto punto, cosa devo dirvi? Esatto, magari funziona. A Darva piace questo elemento. Andiamo avanti, per carità. Lei rientra nel dipartimento. Ok, appena lei non c'è, io prendo Mif e Lieto, metto una mano, cioè, sulle spalle e dico, potete smetterla di essere così molesti con le persone? Io ho detto che stava molto bene. No, al di là del... Anche io ho detto che stava molto bene. No, allora, adesso mi ascoltate. Al di là che chiaramente non dovevamo attirare attenzione su di noi, comunque è successo, ma non importa. Ma non si fa proprio di base questa cosa, ma scusatemi. Al di là della situazione in cui siamo. Mi fa bene, tipo... io non ho detto niente di male. Mi fa convinto spavolta di questa affermazione. Anche Mirf. Si giustifica con la cosa seguente. Beh, il suo collega, pace all'anima sua, insomma, non era molto giovane, ecco. Adriano ti guarda e dice, non è una giustificazione, siete stati cresciuti come degli screanzati, ma proseguiamo. Non hai conosciuto mia madre. La sapevamo già l'informazione che il marito di Adone era il direttore della centrale. No, ma Lieto si fa i cazzi suoi. Tecnicamente, allora tu sicuramente no. Mif sì. Mif però sì, dovrebbe. Cioè fuori dalla campagna. Ok, quindi anche Mif tecnicamente ha saputo per la prima volta questa cosa. No, perché vi siete già incontrati voi, di vista. Sì, ma esatto. Cioè, nel senso, credo che nella sua mente c'era Silas, Adone, adesso li ha messi assieme, credo. Non credo l'abbia fatto, cioè, non lo so. Allora, vi ha visto, poi, che abbia fatto il collegamento che fosse capo della centrale di Apeira, su quello, secondo me, cioè, e di Falchena. No, perché non se lo ricorda. Sì, di Falchena. Falchena, scusate. Tu non hai riconosciuto Adone. Infatti. Sì, sì, ok, infatti. Ha fatto il collegamento quindi... ora. Sì, infatti, cioè, poi Mif che si gira lentamente verso di te e fa, scusami, tutta questa cosa e adesso? E adesso viene fuori che hai per marito qualcuno che sa più di tutti? Mio marito? adesso vedi che hai toccato un punto dolente. Mio marito è stato arrestato, Mif, per essere andato contro gli interessi della centrale, proprio di recente. Quindi sì, è saltato fuori adesso perché non è un'informazione che a cui possiamo accedere facilmente. E tu mi fa un po' fastidio. No, e tu hai pensato di dirlo a lei? Negare non sarebbe servito a molto. I mean, nel senso, era la direttrice era la direttrice della centrale, se vuole prendere un'informazione l'avrebbe trovata lo stesso. Sì, questo è vero. Nome nomen. No, ma sai che lo... Nome nomen. Oddio, porco Dio. Vabbè, scusate. E Adone a questo punto si schiarisce un attimo la voce. E in ogni caso potrebbe darsi che con quella donna ci dovremo riparlare. Chi lo sa, meglio evitare lo squalo più grande. Sì, però prima io e Nibel abbiamo parlato un po', e inizialmente la mia reazione era negativa, comunque non volevo considerare quest'idea, ma potrebbe essere utile dire ad Amos della mia condizione. Oh sì, ci avevo già pensato, ma avevo anche pensato di non coinvolgere la gente della centrale. Non sono della centrale. Però ha bisogno della strumentazione della centrale, avrà bisogno di portarlo da qualche parte, no? Di conseguenza, stavo pensando... Non presente comunque, non parlare... No, era per cioè, era rivolto a Lieto. E poi si rivolge di nuovo a te. Stavo pensando a una sorta di contratto ben fatto che in qualche modo impedisse ad Amos che per ogni scoperta che faccia la può dire soltanto a noi. È un modo per coprirti, perché se esce fuori che tu sei infetto e che sei vivo è un grande problema, lo sappiamo tutti. E non voglio avere a che fare con quel tipo di persone lì. Per questo avevo chiesto a Davos di incontrarci stasera. Avevo intenzione di proporgli questa cosa. Non faranno parte della centrale, ma la Mucelos era la loro professoressa. Infatti. Quindi l'importante è che lei ne stia fuori dai giochi. E perché ne stia fuori dai giochi abbiamo bisogno di coprire in qualche modo con un buon contratto. Contratto è un'ottima idea, almeno avremo modo di stare sicuro, ma io non conosco la magia dei contratti. Meta, vai in un negozio, compri le robe, hai fatto. Ah, la fai? Ah, sì. Allora scusate, no. Davvero così semplice? Sì. Okay. Se tu devi creare... Se la volessimo fatta bene... Aspetta. Se tu vuoi usare dei contratti prefatti è così semplice. Se tu vuoi fare dei contratti particolari con delle clausole strane, tipo quello che hai firmato alla centrale di Oclica, no, serve uno che li stipuli da zero, come faceva Keyel. Ok, ho una domanda molto veloce. Posso imparare a fare una cosa del genere? No. Dipende. È stregoneria. Quindi sì, ma Adone vuole imparare questa cosa? Puoi diventare un notaio? Sì, puoi farlo, però... No, non è quello. Però lui hai... ha un po' di biff. Sei discalculico, non so se è una scelta giusta. Bella come... Secondo me vale come metafora. Forse è più adeguato un numero ti ha gonfiato di botte da piccolo. Vabbè. Che fatica a giocare Adone. Eh sì. A questo punto... E state camminando, mentre parlate. E dice Adone... Allora, trovare un contratto non è difficile, trovare un contratto fatto bene. Nibel, tu conosci qualcuno che sappia fare bene il suo lavoro? Zero, ottimo. No, poi... Ma solitamente per i contratti della mia famiglia non me ne occupavo io. Il contratto non è l'unica alternativa. una minaccia non penso sia abbastanza forte, Lieto. E far sapere che siamo affiliati, che tu sei affiliato a qualcosa, non so se sia la mossa più intelligente. L'anello. No, abbiamo bisogno di una protezione garantita. Tipo magica, non tipo fisica. Esatto. In più, cioè, è una protezione più per Adone, nel senso... Cosa cazzo me ne frega? Beh, nel senso, io posso tranquillamente andarmene da questo paese quando voglio, ok? Però il problema... Ah, yes, the delusion is still there. The delusion is still there. Yeah. Ma secondo me è un buon momento per far realizzare una cosa a Mif. Mi fai un roll di geografia? Oh, cazzo, forse l'ho realizzata anche Sara senza il roll di geografia, però... Ho fatto me ne fai un altro? Ho paura. Più uno anche. Ah, 19. Forse ho capito. 18. E... Tu sei ad Apeira. Tra Apeira e il tuo paese natale... E certo, c'è l'impero. Sì, sì, l'ha realizzato Sara. Ci sono tre strade per arrivare a casa tua. La prima è passare per l'impero, che non è fattibile al momento perché c'è una pestilenza e quindi non si può passare. La seconda è passare per la Gulacca. La terza è passare per il mare. Direi che la Gulacca è quella più plausibile, oltre che ritroviamo delle vecchie amicizie della serie Eia da Bac, ma non è che mi porti a casa di nuovo? Sai com'è? Sono venuto a sapere come stessi. No, come va sulla terra? Però se, cioè, visto che te l'ha menzionato, è un buon momento per cui Mif realizza che non può tornare a casa al momento. Mentre dice la cosa, io torno a casa quando voglio. Esatto. No. Vedete che si tipo si ammutolisce un attimo e fa... Già, no, meglio che siamo protetti in modo magico. Già, e appunto ci tengo a sottolineare che anch'io vorrei tenere viva la mia salva la mia vita, nel senso, non so, io spero che le parole di, vabbè, porca troia la cam, spero che le parole di Kronos non, no, scusate un secondo, ok, Kronos non, perché nella lettera che hai dato, la seconda lettera che hai dato a Bianic, il fatto che Adone morisse non era così chiaro, quindi devo un attimo rifare la frase. Puoi anche, esatto, sì, interpretala come vuoi. E Adone dice, poi non so cosa intendesse Kronos con quelle parole, però magari se Deimos ci aiuta, potrebbe anche aiutarmi a, beh, sopravvivere. È vero. In più, onestamente, quello che ho visto nei tuoi sogni, anche se non ti ricordi, vale la pena di essere esplorato. Vedi che Adone ha un piccolo brivido perché si sente molto cavia da laboratorio in questo momento e dice non credo di avere troppa scelta al riguardo, quindi sì. Direi ah, io non ti forzo, se non vuoi, non vuoi, anche perché onestamente la dolce scossa che mi hai dato mi fa tentennare a riguardo. Non l'ho fatto io. Sì, l'hai fatto tu, per protezione. Non consapevolmente, no. Oppure anche prima, in chiesa, quando hai lanciato folgori, però tutti erano addormentati. Cioè, quindi, insomma, sì, secondo me vale la pena esplorare quel campo lì. Sai, magari hai delle abilità particolari, potresti divertirti. Solo per dirvi che se siete arrivati alla strada principale della zona nord, cioè tipo all'imbocco, e vedete molto avanti rispetto a voi, quattro guardie. Per quelli di voi che non sono di Scirocco, quindi sto parlando solo esclusivamente con Adone, credo, perché gli altri comunque Scirocco lo conoscono, non hai idea di chi siano costoro, cioè capisci che sono soldati perché hanno un'armatura. Gli altri invece sanno almeno il nome e sono dei legionari, Legio Orbi, hanno un'insegna con scritto XXIII23 in numeri romani. Per il resto la loro armatura ha colori, cioè tinta, di rosso e giallo. per voi che capiscono perché vincono un biscotto, non lo dite. E... dai, Roma. Scusate. Esatto. E niente, stanno venendo nella vostra direzione e sono tutti molto giovani. Cioè, il più grande avrà 25 anni. E... ah, sono... stanno venendo nella nostra direzione o stanno venendo camminando da noi? Nella direzione opposta a quella che prendete voi per la strada, e hanno un modo di fare più da comitiva che non da soldati, si spingono, scherzano, urlano. Ignorateli, andate avanti, continuate pure, cioè vi volevo solo dire questa cosa qua, sì, no, lo sto dicendo agli altri a bassa voce, ignorateli, andate avanti. E allora su questa nota mi cambia totalmente argomento. Allora, Adone, ti è piaciuto il cibo che abbiamo mangiato alla scuola? Per evitare, visto c'è più gente, meglio evitare argomenti sensibili. Beh, no, era cucinato bene. Era buono, a dire la verità, mi ha sorpreso. Sì, effettivamente anche a me ha sorpreso. Soprattutto che fosse cibo vero e non latte e cereali. E si gira verso Lieto lentamente. Si gira verso Lieto. Sì, effettivamente quella roba lì la mangi a colazione sempre? Sì. Sì, latte chi non mangia latte e cereali? Dove cazzo di paese venite? Poi che puttana maledetta. È proprio un tipo strano, Lieto. Ti manca un po' di carne di orso nella pelle. Io avrei detto altre cose, però sì. Immagino ti manchi carne di orso nella pelle. Adone un po' confuso. Siete al punto in cui non state dando l'occhio, la strada è pienissima. Passano questi quattro ragazzi gender neutral, cioè mixed. Tanto c'è la gender machine. Esatto, 2-2. E l'unica cosa che sentite che dicono, senza fare nulla per impedire che voi ve ne accorgiate, anzi, nella vostra direzione dicono proprio Mirax e noi, e continuano. Che per quelli che parlano la lingua di Apeira è uno slur. Guarda, sti neri. Cosa dei croci o dei neri? Degli stranieri, però inteso come slur. E io, tipo una mezza gomitata Nibel e con il mento faccio tipo indico i. Ok, raga, io volevo aspettare. I tifi che sono appena passati. Cazzo? Ma devo andare in bagno perché mi sto pisciando tosso. Ciao, scusate. Buon appetito. Va bene. Mi prendo. Wow. Lui piscia, io mangio. Bello. Anzi, sai cosa faccio? Dalla parte esce, dall'altra entra. 5 minuti di pausa, mi faccio dei pesi. Ti piace l'idea? Vai piano, cosa fai? anche così non li fai i pesi, devi contrarre bene i muscoli e rilasciare piano piano, sempre contrando. Li ho già fatti oggi. Fammi vedere queste armi, fammi vedere queste pistole. The guns. Appena ricominciato a fare non ce l'ho praticamente. L'unica cosa che mi rimane sono le spalle, però non si vedono in foto. In foto? Dai. In video, hai capito. Spalle sono difficili da fare. Poi le fai corpo libero, tipo flessioni, piegamenti? E flessioni sì, piegamenti, ho un problema alla gamba per cui non posso farlo più di tanto. Vabbè, un po' per volta. Esatto. No, dai, perché dillo, che sarebbe... dillo, che stai aspettando, dillo. Ho un tumore, per cui... abbiamo detto adesso, andiamo. Tumore alla gamba. E no. Al nervo che collega la gamba alla spina dorsale. No, not funny, man. E, no, per questa parte... Certo. L'altro giorno sono andato a correre, ho fatto, ma io credo, 30 passi a... Sai quando tiri su tanto le gambe, no? Quando fai la corsa... Come cazzo si chiama? Ce l'ha un nome? Lo skip. Pensavo di morire. Da un lato solo poi, cioè dall'altro chill. Dal lato incriminato, la morte. Vabbè, arrivo subito. Vai. È tornato Eddie, sbrigati. Mi ha fatto non è vero, Eddie. Così non... Di stare zitto, Ica. Niente. Non si mette. Sì. Devo fare uno scherzetto. Not be funny. È come quando una volta... È tornato veramente Eddie questa volta, non potete dirmi di no. Ho notato adesso che in cam sembra veramente un bimbo. Cioè, guardo le proporzioni di... Ma anche dal vivo. sei wow. Shara Undertale, farinata vecchia di due giorni. Oggi ho detto a Bianchi, porco Dio, cioè, sono vestito come Chris di Deltarune. Sì, stesso personaggio. Prego. Cazzo, state mangiando? Farinata vecchia di due giorni. Ah, la miglior farinata. Dai. Io la farinata, quella molla, con lo stracchino. No, no, quella molla no, solo quella croccante. No, no, io quella molla. I like them soft and slimy. And west. How and about both in this room? How about? Tutti e due. Fa uno step molle. Esatto. No, questa cosa non l'ho mai mangiata. Scusate. Highlight è stato svegliarmi prima di voi, andare in cucina e fare colazione con la farinata, presa proprio così. Madonna, e io ero messa a faraone, mi hai fatto anche la foto. Sì, ma... Oh, io avevo bisogno di una coperta quella notte, non l'avevo presa, porco Dio. Ti giuro, per questo mi sono messa a faraone, perché no. Così mi scaldo meglio. No, ma io avevo paura, ero terrorizzato. Ho notato. Adesso te lo posso dire, ok? Io avevo capito che sua madre stesse mentendo, no? Però vedendoti così tanto impaurito, ho detto: ah, ok, sì, dai, Eddie, è la normalità. È la normalità, dai. Vero. Era tanto contest. Così da andare da Pianice a dormire con lui, perché è venuta una tempesta ad agosto quando mi sono venuti a trovare. Ma tipo, di tutti i fulmini, tutti hanno toccato terra, cioè nel senso... No, no, no, c'è niente di strano. Infatti, affanculo. Ripariamo, sì. Vai. E tocca a voi perché state camminando verso il tempio, questi vi hanno detto quella frase lì? Ah sì, io ho fatto la mia scenetta, cioè... Sì, io ti rispondo. Fai finta di niente. Che cosa hanno detto? Che... Ah, vai, hai detto. È un termine del posto per dispregiativo nei confronti degli stranieri. Effettivamente siamo foretti. C'hanno ragione. Lieto, fica dritto, non ha un problema questa cosa. Beh, dai, un po' di razzismo nel 1600 ci sta. Sì, no, ma l'avrebbe fatto anche lui a casa sua, non è a casa sua, lo capisci. Mi fa spallucce, come per dire, poveri illusi, se sapessero soltanto di cosa siamo capaci. Oh, l'ho uccisa, sta zanzara di merda. Bene, andiamo avanti. Ok, se non volete discutere di altro, comunque volete fare chit chat, la skippiamo, arrivate direttamente al tempio, ditemi voi. Sì, andiamo al tempio. Perfetto, le porte del tempio sono chiuse, non c'è una folla fuori come le altre volte che siete passati qua. Prima di arrivare al tempio ripassate davanti alla solita, chiamiamola edicola, dove siete già andati tre volte oggi, quindi direi basta. E niente. Aspetta, una di queste tre volte non è in questa linea temporale. Vero. Vero. Quindi non conta. Verissimo. E come si dice? Chi entra? Entriamo dentro. Beh, Mif, insomma, apre il portone molto gentilmente e si fa strada. Verso le camere, insomma. Sì, aspetta. Ce n'è prima di arrivare alle camere. Quando entri nel tempio, vi ricordo che Oraclanum è una persona vera riportata su Faithless, ok? Benissimo. Notate che il tempio ha delle piccolissime modifiche estetiche che sono state fatte al suo interno. Queste modifiche consistono... Due ore che mancavano, in queste due ore in cui non ci siamo stati. Esatto, tra le due e le quattro ore, esatto. E queste modifiche estetiche consistono in un numero molto elevato di buchi nei muri. Fuori. Ma tipo, che passa da parte a parte? No. Come dei colpi di pistola, sembrano però molto precisi. Quanto larghi? Cioè, Ok, colpi di pistola proprio, ok, vabbè, siamo lì. E ora c'è? Oppure... C'è nessuno al piano terreno. Siamo tipo contro lo stipide del portone. La statua, se vi interessa, è illesa, cioè è senza queste cose qui. In generale tutto il rispetto proemio, prima di tutto. Tutto il proemio è illeso, non ha danni. Guardo Miferico, si è messa di nuovo a fare prove con gli incantesimi. Cioè, che grande donna. Mif procede. No, non ho capito. Dice, ma in che senso? Che avrebbe fatto la stessa cosa, Mif. Cioè, per questo, è d'accordo con ora. Le avevamo esplicitamente detto, tu non fai niente, però finché non torniamo noi, tipo. E questa ha detto, certo, e ha fatto saltare in aria la chiesa. Andate al piano di sopra. Giusto? Sì. Sì. Io ho bussato davvero, tipo, al portone. Se non succede niente, sì. No. Via. Ok. Ok. Le scale hanno un unico foro, che c'era già, se vi ricordate. Quello iniziale. Esatto. E sentite, man mano che salite le scale, una specie di voce, una cantilena forse, femminile, provenire da una delle tre stanze. Scusate, io mi sono un attimo perso. Dove cazzo siamo? Nella chiesa di Hielos. Nella chiesa di Hielos, nelle stanze dove tu hai dormito. A posto, allora, pensavo che... Io avevo capito che stessimo andando nell'altra. Ho fatto un pit stop qua per chiedere al prete. Sì, alla fine non era tanto lungo il passaggio, quindi... Better safe and sorry, mettiamola così. Esatto. A me penso che segua la voce comunque molto tranquillamente. Ok. Ecco. La porta è socchiusa, non è chiusa, quindi se vi avvicinate riuscite anche a sentire. Mm-hmm. Vai. La cosa che senti, la nenia che senti, sembra una preghiera o comunque un canto nella lingua antica di Apeira, cioè nella lingua Caies. Ok, e riesci a capire più o meno? Il contenuto della cosa, no. La persona che parla, chiaramente, è Ora. Mif bussa delicatamente la porta e dice, Ora, siamo tornati? Il suono si interrompe subito, cioè appena bussi. Allegato? Cosa vuol dire allegato? È un dito medio. Ah! E... Sì, entra pure. Apre leggermente la porta e senza dirle ciao, senza dirle niente, le fa. Vedo che ti sei divertita ad adottare. C'è lei che è messa in questa posizione sopra il vescovo sdraiato. Che succede? Va bene, il vescovo sta dormendo. Sta dormendo. Sta dormendo temporaneamente o sta dormendo? Dormendo per sempre. No, no, poi lo sveglio. Ok. Cosa gli stai facendo ora? Mi manca un pezzetto per la nostra sperimentazione e lui sa quel pezzetto e non me lo voleva dire, quindi glielo sto chiedendo in maniera più eloquente. Stai torturando? Stai facendo nei romanzi? Oh, madonna! No, nei romanzi, cosa brutta. No, è una specie di illusione. Visto che tipo si avvicina e posa le mani, entrambe le mani sulle spalle di Ora, e le fa, Ora, con calma, un secondo. Non ne hai bisogno adesso, è tardi. Ci siamo, ormai ha finito. Abbiamo scoperto un'altra cosa che secondo me ti piace di più. Più interessante. Tipo che forse abbiamo la possibilità di parlare con una divinità se la risolviamo. Sai cosa? Svegliati. Povero vescovo. Sì, infatti. Cos'è stato? Per curiosità, che cosa gli stavi chiedendo? Di dirmi il resto della formula che mi manca. Non mi sembra cortese con qualcuno che ci sta ospitando. Ma perché non se la ricorda? Se non facciamo così non riesce a mettere in chiaro i pensieri. Più avanti. Tu farti fare questa cosa, sto parlando al vescovo. Non ho idea di cosa abbia fatto. Ok, vado, lo aiuto a tirarsi su. Faccio, mi assicuro che stia bene. Aveva detto che avrebbe guarito le mie ferite, in effetti sono guarite. Già, già, sì, è vero. È vero, e si gira verso ora. Bene. Tra parentesi, loro due sono i miei side character preferiti. Io amo sta coppia di sì, personaggi. Sì, dicevamo, e Adone dice, ah, comunque, vogliamo aggiornare anche il vescovo? Sì. Quanto sei sveglio da 1 a 10? 30. Cioè, sveglio nel senso, no, nel senso non di intelligente, sveglio sul pezzo. Non penso che dormirò mai più. Ok, perfetto. Abbiamo visitato un tempio nel tempio, se vogliamo dire. Abbiamo trovato il tempio di Arva, sotto il tempio di Diru, qua da Teira. C'è un bel enigma da risolvere e noi volevamo risolverlo, però mi sa che ci serve il tuo aiuto. Ho capito metà delle cose che hai detto. Perfetto, non ha l'importanza. L'importanza io ero fuori è il taccuino, il mio esatto. Taccuino in cui gli mostro gli schemi. Non era così il vescovo una volta, era una persona seria. È appena svegliato e non sai cosa ha sognato, quindi... Non lo so. E ora gli stai facendo vedere degli schemi complessi che sembrano scritti da uno schizofrenico che non prende i farmaci. No flame. A dove rientra nella descrizione? Allora dice, questo pensa che li ho scritti IRL. Adone dice, questo è l'indovinello se ti interessasse, ma forse te lo facciamo rivedere meglio fra qualche minuto, tempo di carburare. Non ho capito niente. Tipo di cereali. Allora, te li spiego io. Siamo andati nel tempio della divinità del denaro, ok? Conosco abbiamo... la sacerdotessa. Perfetto. Bene. Dopodiché abbiamo fatto un buco nel terreno, si può dire, siamo scesi e abbiamo trovato l'esistenza. E abbiamo trovato questo. Ah, non è serio. Ho trovato questo tempio, questa specie di altare in cui c'è un cubo di marmo perfettamente cubico al centro e sulle pareti queste cose. Dobbiamo capire come risolvere l'indovinello. C'è una soluzione, si può risolvere, lo sappiamo perché una persona che conosciamo l'ha già risolto. Almeno questa. Ora sono io che rido, scusa. Sì. Sto pensando, l'abbiamo risolto nel futuro? Esatto. Certo, certo, è proprio la cosa giusta da dire in questo momento. Sì, non lo dice. A un certo numero di giorni lo avevo risolto. Non credo di potervi essere d'aiuto con gli indovinelli. Ma... Ah, no. Non... Allora, noi sappiamo già la domanda. Esatto. Quale sarebbe? Per caso tu sai la differenza tra un anno divino e un anno umano? No, nel senso che non esistono anni divini. Cioè, se aveste studiato le sacre scritture sapreste che gli dei sono mortali ascesi. Quindi... Sì. La risposta è zero. La hanno... risposta è esatto, zero. Sì, l'altra interpretazione che ti posso dare è che, soprattutto nelle lingue antiche, divino può essere sinonimo di perfetto. Quindi ora dice vicino. Beh. Quanto dura un anno? 365 giorni. Sì. Sì. Adesso è Silvio che lo chiede, già che dura 300. Beh. Quando un anno bisestile ce n'è uno in più, uno in meno, uno un giorno in più. Scusate. Notte. No. Scusatemi. Esatto. Quindi... quattro anni durano... quattro anni e un giorno. Quindi un anno perfetto dura... Io non ho capito. Neanche io. È dura 366 giorni. No? È ora, sto rullando ora. Allora, un anno può durare o 365 o 366. Mediamente? 365 e mezzo? Che cosa vuol dire mediamente? Come un mezzo. È un quarto. Ah, è vero, perché gli anni bisestili sono ogni 4 anni, Adone. Adone guarda così in cam. Why is there math in my gay simulation game? Ma infatti, non potevo succhiare il cazzo a qualche uomo filosofo importante. No, sempre fare la matematica. Adone dice, l'importante è che siamo arrivati a una soluzione. Come possiamo adesso offrirla a quell'altare? Non lo so, gliela sussurriamo. Credo che anche la cosa delle 6 ore in più sia un'approssimazione. Non sono una astrologa. Credo che non ci sia differenza tra astronomia e astrologia al momento, quindi vaffanculo. Non sono un'astrologa, quindi dovreste parlare con qualcuno che sa quanto sia la differenza precisa. A meno che uno di voi non lo sappia. No. Piccola vola pietra, non ne ho più paese di... Ma arrivo la gente. Io non domanda, Vianni, ci credo di aver fatto studi di sta roba, zero. Puoi fare un roll? Di dai, scienza? Il primo dai, roll di scienza della campagna? Ma dai, scienza o natura? Quello che volete è il più alto. No, scienza. Vabbè, tanto scienza. Scienza più 6, quindi 8. Il dottor Lieto ha fatto 9. No, sì, 6 più 3 è 9. Coglioni, ha fatto un più Lieto, Dio Cristo. Niente. Era il tuo momento di brillare. È il momento di giocare una memoria. Scienza cos'è mente? È di cultura. Canisce, mamma mia, stavo per dirti gioco la memoria. È il momento giusto. Sono sicuro. Minchia, ha fatto di più. Puoi farmi ritirare, per favore? Puoi avere pietà? Aspetta, avere aspetta. Pietà di Adone? Manca? Nelle crepe della pietra ho visto le informazioni. Antiche. Cioè, ti imploro, Pjanic, che io ho rollato una quantità indecente di 1 in questa sessione. Fammi ritirare. Applico un metodo metodo democratico. Siete d'accordo di rinunciare ai vostri roll per farne fare un altro ad Adone? Che ha più 6, vi ricordo, a sta cazzo. Ti prego, ho più 6! Io no. Rinuncio al mio 10 per farti fare un altro. Democrazia, 2 sì 1, puoi ritirare. Vai. Se faccio 1, esco dalla campagna. Sappiatelo. 10%. Invita Ciel. Beh, dai, 1 in più. È meglio di prima, però, se ci pensi. Esatto. Se ci pensi. No, voglio tirare un dado, basta, mi sono rotto il cazzo, non è possibile che io debba donare... Qual è il D10? Il D10, è quello che è strano, no, quello di è il doppio prisma. No, sì, okay, scusa, si vedeva male. Ho fatto 7, possiamo tenere il 7? Grazie. Siamo in democrazia, possiamo tenere il 7. Possiamo sì, teniamo il 7, teniamo il 7. Io sono per... fai tenere il 3, purtroppo. Tenere il 3... Dottor Lieto, è lei la Vox Populi. Ha già avuto la seconda occasione. Cosa abbiamo? Dai, buone, dai, non fa niente. Ah, da democrazia a socialismo è un attimo. Perché comunque. E c'è il socialismo. Io voglio suonare un cubo qua. Gol di merda per vedere se Adone ha fatto l'astrology pitch nella sua gioventù. Dai. Aspetta, facciamo così. Lasciamola. Esatto. Rollo su, non c'ho un coso. Parliamo un di 20. E pari sì, dispari no. Pari sì. Pari sì. Gli dei ti hanno infuso il sacro sapere. Nei tuoi grandi studi di scienze, eccetera. Sai che... Quella era la domanda. Quanto dura un anno? Adone, facciamola larga, sa che un anno siderale, che è la tua cosa, dura 365 giorni, 6 ore e 9 minuti. Okay. E una manciata di secondi, credo. Una cosa del genere. Però si può approssimare bene a 6 ore e 9 minuti. La domanda che mi hai fatto prima, e che, alla quale ti rispondo ora, è: come facciamo a mettere 6 ore e 9 minuti? Avete tutte le cazzo di robe del puzzle. Trovate voi un modo per farlo. Mi sembra una scelta giusta. Ho sbagliato. Ho provato la carrozza invece di Paintless. E cioè, lo dobbiamo rappresentare con i numeri delle clessidre del di sto cazzo. Cioè, così mettiamo 365 giorni e le ore e i giorni. Cioè, le ore. Non ne puoi più. E sono tutte le tue forze per. Cioè, per fare le ore e i minuti. Sì, perché avessi. Ma Nicole è andato in vacanza. Sì, sì. Nicole è andato a Peira, veramente. Non mi va. Sì. Ah, grazie, stavo provando a trovarli. Purtroppo sono un po' formatata a cazzo di non cane. Riesco a sparire. Io non ricordo più nulla, ragazzi. Uccidetemi. Ok. Ok, quindi... Boh, cioè, ho capito che... Devi fare punto 24 con le clessidre. Dai, divertiti. Vabbè. Dovete fare 6 ore e 9 minuti con le clessidre. Sì, sì, è solo 364,24, cioè. Fermi. No, no, 365 giorni, 6 ore e 9 minuti. Quanto era un puntino? La differenza è 6 ore e 9 minuti. 3, 6, 9, 12. Cos'era un puntino? 12 cosa? Ore? Ore dovrebbero essere. Allora, quella grande, okay, è un anno. Quella, la seconda è mesi, ok, giorni, e giorni, ore e minuti, quindi sì. No, aspetta, quindi il cerchio era il cerchio grande o la clessidra che rappresentava cosa? L'anno non c'è. L'anno non c'è. Ma non c'è? Quindi è mesi, cioè scusami, mesi, mesi, settimane, giorni, ore, minuti? Sì, sì, sì. Sì, però... Te la dico in un altro modo? Una volta che ci sei, avrai un bellissimo altare su cui fare i tentativi e ogni fallimento succederà qualcosa. Quindi puoi anche andare per trial and error. Comunque, avete... No. Ma noi fare il tuo trial ad error e mi sono inculato male, quindi non lo so. Noi siamo millennial e Gen Z, siamo abituati a non dover fallire mai. Quindi facciamo questa roba voi, senza fallire. Gen Z della del 1600. Del 1600. Comunque, avete tutto quello che vi serve. Cosa volete fare? Beh, questo punto dice, a questo punto possiamo andare a risolvere il puzzle, direi. Sì. E si dirò verso ora. Tu aspetta prima di fare qualsiasi altra cosa strana. Ah, pensavo di venire con voi. Ah, e vieni con noi, ok. Infatti, cioè ti pare che la lasci di nuovo qui? Dopo quello che ho fatto. Sono d'accordo con te per una volta. C'è qualche persona che non vuoi incontrare ora? Perché ci sarà qualche persona che incontreremo. Che tipo di persone? Persone della Zenith Auster. C'è problema? Studenti. L'ex figlio, cioè il figlio dell'ex dirigente della centrale. No, gli unici che mi vogliono morta sono i soldati dell'impero. Due. Allora non dovrebbero esserci problemi. Bene, ci avviamo allora. E si gira verso il vescovo e fa... Non so che sembrerà abbastanza una cosa da bambini, però non apra la porta agli sconosciuti. È una chiesa, è un luogo sacro, devo aprire a chi vuole pregare. Dica che nel frattempo... sta male, che faccia finta di non essere in chiesa, non lo so. rimanga a letto a riposarsi e non vada giù a vedere com'è conciata la chiesa, per favore. Com'è conciata la chiesa? È perfetta, non ce ne sono. Rimanga problema. A riposarsi, per favore. Va bene. Se vuole prendere uno dei miei sonniferi, può prenderlo. Ma solo uno. Adesso. Solo uno. Anzi, no, sa cosa? Non prende i miei sonniferi, meglio di no. Lasci stare. Velino per cavalli. Da povera. Vi appropinquate a uscire dalla chiesa. Cioè, mi quindi... sa che sta un pochino più indietro con ora. Cioè, tira un attimo ora e le sussurra. Cos'è che stavi dicendo prima? Tipo? Cos'è che stavi dicendo prima? Cosa? Prima che bussassi. Prima che bussassi. Ah, niente, era Occult Scrying. Tra parentesi, Mifsa, cos'è? Penso. Ok, ok. Mifsa è perplessa e chiede cosa? È una magia per avere risposte alle domande. Ah. Qualcuna? Non ho sentito. Ne hai trovata qualcuna? E no, mi avete interrotto prima. Giusto. Peccato. Yeah. Ci ho sperato fino all'ultimo. Quando la studi alla scuola di magia... Tanto state uscendo, state andando. Quando la studi alla scuola di magia ti insegnano che ognuno lo fa in un modo diverso. E... a me piace fare così. Cioè usare un tramite per lanciarla. E che mi dici dei buchi? Ah, ho finito le monete, me ne è rimasta una di con l'effigie di Yelos per lanciare la magia. Cos'è e... che recitavi? E... recitavi una delle... non me la ricordo a memoria, è una delle preghiere contenute nei breviari che c'erano nella chiesa. Ce l'hai ancora? Quindi... ok, riesci ad indicarmela? Questa. Riesco a leggerla? Sì, è scritta in un linguaggio, cioè nella lingua antica di Achaies, quindi leggibile. Il significato devi un attimo fare una traduzione, però è un coro sacro, cioè non è una roba oscura. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. Okay. Perché? Danno nell'alto dei cieli. Esatto. Ok. Ora sì. Quelli che incontreremo non sono nostri amici. Se scopri qualcosa, parlane prima con Mif o con Adone o con col Lieto. Peccato, avrebbe fatto video e avesse lasciato Lieto fuori. Non mi viene in mente il nome, cioè mi stavo scordando il nome. Per canonicamente che dice tu, perché ragazzino. Avete a che fare con della gente che non sono vostri amici? Perché in un modo o nell'altro ci servivano delle informazioni. Ci sta. Domanda, passate per il centro città che è più veloce o rifate la strada esterna che avete fatto all'andata? Per il centro città, direi. Yes. Sì, direi la più veloce possibile. I gladiatori centurioni del Colosseo che abbiamo visto sono del luogo, non sono dell'impero, vero? No, sono del regno. Ok. Ok, in effetti, passando per il centro città, li incontrate. E sono tutti e quattro intorno a un signore con abiti neri e lo stanno vessando, per usare un eufemismo. Lo spintonano, gli fanno domande, lo insultano. No, dai, non ci riguarda, andiamo avanti. Ma sul serio possono fare così? Quando l'autorità per poterlo fare e nessuno ha il coraggio di fermarli. Mi sa altamente confusa, pratica non funziona così. E anche un libro sì. più funziona esattamente. Il regno, vuoi dire? E l'impero, direi che funziona once again così. God damn, quando mai l'hanno fatto? Literally, everyday. Buonasera, siamo... Non so di cosa state parlando. Siamo venuti a casa vostra a prendervi, a portarvi in quarantena, ma io veramente no. Venga. Ora sostiene che finché non l'hanno tentata di ammazzare non era mai successo prima a lei. A lei, Bing! La colonna portante di questa casa. Non era mai successo a me. Vedi, vedi. E sono cose strane di recente, i tempi che cambiano, il mondo al contrario. Sì, lo sanno tutti che la propaganda non c'era prima. Mi fa che vi guarda tipo come dire, dove cazzo vivete voi? Sì, tu qua che vive dagli orsi, cazzo vuoi Attilia, da noi? Che appunto. Via Mazzini. Grande Adone, che vive in via Mazzini, ante litteram. Scusami, sai perché ho detto via Mazzini? Perché abiti in via Mazzini? No, perché via Mazzini è tipo la città commerciale, cioè la via commerciale più importante di Verona, dove ci sono tutti i negozi di lusso. Era per dire, vive in una bella zona, ma vabbè, andiamo avanti. Sì, la Verona sì, bene. La è come buona. Se dicessi che tua madre lavora in Viale Fieschi, non ha nessun senso per te questa frase, mentre per il ca ha tantissimo senso. E ho vedato il contesto, sono... Signore. Dicevo, quindi ignorate questo... caso di police brutality, che comunque quello poteva essere uno stronzo, magari se l'è meritato. Io giusto un'occhiata al viso del tipo, cioè un tipo anche qualsiasi. Anche me. Il viso del tizio è del luogo, è un local, e però ha abiti neri che non sono connessi. Io mi sono appena reso conto che posso fare una cosa. Puoi provare a fare una cosa. Non ho mai avuto così tanta paura di tutta questa compagna. Io posso veramente provare a fare una cosa. Posso fare una cosa? No, no, peggio. E infatti peggio. Ce l'hai ancora? No, l'hai tolta. No, però posso fare Terrify senza che si accorga. Che figa. Se vuoi. Sì, ma gli fai già casino, già lo stanno picchiando. Fai Terrify e dicono, ah, stronzo. E lo picchiano di più. Vedo che Eddie ha capito come funziona. No, si spaventano. Succede così anche nella vita reale, frate, fidati. Io... è questo che non dovremmo aiutare i palestini. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, lo stavo per dire io. Per chi è vicino a Mif, notate che si tocca un attimo la collanina. Io casto Terrify, però nessuno se ne accorge. E faccio in modo che i miei compagni non mi vedano. Cioè, nel senso che non possano essere obiettivo della spell. Sì, va benissimo. Devo resistere al fear. Mi dai la difficoltà? Era 5 più M più livello, quindi 5 più 3 più 3. 11. Tre su quattro vengono feared, il quarto no. Non vi ho dato descrizioni delle persone, vi ho solo detto erano due donne e due uomini, presenting. Le due donne sono feared, uno degli uomini è feared, il quarto uomo, quindi iniziano a correre in direzioni opposte. Quindi il quarto estrae la lancia, sono armati di lancia, la punta alla gola dell'uomo, sorridendo, cioè vedete che è molto contento di questa cosa, e dice, lo sapevo che eri un pezzo di merda. Un cazzo. Avete tutti un'azione, se volete fare qualcosa, altrimenti vi dico cosa succede. E... Lieto si avvicina e cerca di richiamare l'attenzione della guardia. Legionario. Cosa gli dici? È tipo... Vabbè, ma non così in mezzo alla strada. Cioè, lo sai che fa brutto. La guardia si gira verso di te, ti squadra e dice... i figli del re fanno il cazzo che vogliono. Sì, ho capito, testa di cazzo, però... E... Nella testa di cazzo non ce l'ho messa la cosa. E... E i figli del re potrebbero essere interessati a un piccolo ricompenso per andarsene in questo momento. E tiro fuori il sacchettino di manapenni, tipo. L'uomo abbassa la lancia, fa un gesto molto arcuato e poi colpisce sul ginocchio l'altro individuo, assicurandosi che questo non scappi. Ti guarda e dice: hai così tanto interesse a corrompere un'autorità? Conosci questo idiota? No. Allora estrai la lancia, pulendola dal sangue, schizzandolo via, perché te ne frega qualcosa? Ian, vabbè, non mi interessa particolarmente la vita di quell'uomo. Quest'uomo è un pericoloso terrorista. Cosa avrebbe fatto per meritarsi questa label? Gli tira su con l'altra mano il mento e dice: è un membro della Corona Nera. È qualcuno che abbiamo visto? Non è uno di quelli che sono venuti a rompere i coglioni a voi. Okay. Beh, allora arrestatelo. È quello che stavamo per fare, ma poi ha spaventato i miei colleghi. Con una delle loro stupide magie gli dà una schicchera da Corona Nera. Ma non ha castato niente. Come fai a dirlo? Ah, questi idioti sono pieni di strumenti magici del cazzo che nascondono le magie. Non mi sorprenderebbe che ne avesse uno su per il culo. E comunque... sì, lo arresteremo, lo porteremo in carcere e lo interrogheremo lì. Però ci serviva un pretesto per arrestarlo. Beh, adesso direi che lo avete, non serve ricorrere a tanta violenza. E voi Xenoi, cosa cazzo ve ne frega di come gestiamo le cose qua? Non pensavo che foste talmente barbari in questa zona. È in ginocchio il tipo... Sì, per forza l'altro. Allora mi abbasso verso di lui e chiedo... Sei veramente della mano nera? Della corona nera? Ma cazzo si chiama? La corona nera. Fa un suono. Ma non era un'altra campagna. Fa un suono. Anche in questa campagna si sono chiamati mano nera nel passato. Vabbè. E fa un suono acuto e non ti risponde. Infatti, Non rispondermi così. Dimmi solo sì o no. No. Metto una mano sulla spalla. In bocca al lupo. Dettimi perché ti punta il ferro, cosa fai? Sì, esatto. Questo si è già giocato un ginocchio, ora gli fanno fuori anche il resto. Mi alzo, io guardo la guardia e dico... Beh, buon lavoro allora. A voi. Buona giornata. Deci. E sentite che chiama gli altri tre, li offende come in maniera molto sboccata, molto colloquiale, dicendogli di smettere di fare i deficienti e di aiutarlo a portare via il tizio, e lo iniziano a trascinare appena gli passa il fear. Ok, avete avuto questo. Ce l'allontaniamo. Scusate, per fortuna che non mi ha detto nulla il tipo. E... ok, il resto del percorso è molto più tranquillo, cioè la strada è molto affollata, ma proprio per questo non date nell'occhio, nessuno vi nota, nessuno vi dice niente. Riuscite a superare la città alta e arrivare al percorso principale che arriva fino in cima alla chiesa di Ruapeira, che in questo momento è affollata di turisti. Con turisti intendo gente non di Apeira, tutti ben vestiti, altolocati, gente che è venuta qua per ammirare le bellezze storiche della città. e voi in questa cosa vi mescolate alla perfezione. Per assurdo, Nibel è il più strano perché è un pochino più local, però gli altri vanno abbastanza nascosti. Se non volete fare niente di particolare, vado avanti. Ditemi voi. Sì, direi. Ok. Salite la lunghissima scalinata, arrivate in cima. Stavolta date le spalle al mare arrivando in cima, quindi se vi girate vedete lo scenario che avevo già descritto. E dall'altro lato invece c'è la grande chiesa di Roapeira. E vedete che effettivamente molti turisti gettano delle monete di metallo e anche altri oggetti di metalli preziosi all'interno della grande cesta che c'era. Qualcuno entra dentro al tempio, la maggior parte sta fuori, c'è una grandissima terrazza che voi non avete esplorato minimamente, perché non è particolarmente interessante, con qualche albero, dove la gente rimane lì ad ammirare il paesaggio, chiacchierano, insomma, non è un luogo di culto, comunque non viene trattato come un luogo di culto, ma più come un punto di interesse per turisti. Di nuovo, cosa volete fare? Riusciamo a vedere chi dobbiamo incontrare? Non ci sono gli altri ragazzi, siete arrivati in anticipo. Direi di aspettare, cioè perché non vorrei che tutta questa gente ci vedesse attraversare una porta. Se non volevate condividere con loro le informazioni, non è meglio fare tutto senza di loro? Commenta ora. Ah, no, io intendevo la gente. Ah, per quello ci penso io. Posso? Scusa. Dipende. Cosa intendete fare ora? Aspetta, ora meglio non fare casino. Parliamo prima con la sacerdotessa, avvisiamola che arriverà qualcun altro. Va bene. Le tue abilità sono apprezzate ora, solo che Esatto. evitiamo di fare. Ok, zittito Adone, non so cosa dire. Mi fa patta ora sulla spalla e tipo le fa ben fatto, ben fatto. Ha fatto la Ragazzi, conquest poverino. move. No, è un uomo gay, cosa devi dire? Ah, ok. Tanto da qui, adesso mi sa schioccare le dita, Bellissimo. period. Scusate. Bellissimo. Arrivati all'interno della chiesa, notate che la sacerdotessa è occupata, sta chiacchierando con molti dei turisti. Anzi, è proprio l'anima della festa, sta proprio attirando l'attenzione, gli sta raccontando i cazzi della dea, gli sta raccontando storie non sapete quanto vere sulla chiesa in cui vi trovate. E ovviamente il sottinteso di quello che sta raccontando è che è buona norma fare delle offerte alla dea, perché comunque lei vi guarda dall'alto dei cieli. Gli dei non esistono. Pisco. Più che dall'altro dei cieli, da una qualche centrale stanza 4x4. No, proprio. Io ho 7 staff, se nessuno ha robe da mettere, posso metterle anche per gli altri. No, beh, anche No, vabbè, non serve che rifacciate la cazzo di offerta, l'avete già io. fatta per Ok. oggi. Ho imparato cosa non mettere, non vuoi fare ciò? Sì. Ti ripeto, Fai this action will have consequences, ci vorranno degli anni forse, ma... Ok. Bene, vabbè. Ditemi voi cosa volete fare. Andiamo dalla sacerdotessa, avvisiamola che arriverà qualcuno dopo e se possibile qualcuno di voi può scendere e fare le prove prima che arrivino gli altri. Come si scende? Ci apre la sacerdotessa una porta da quella parte e Mif indica un muro. Vedi che ora si tappa un occhio. Ah, lo vedo. Ah, mi Andiamo? fa sorridere questa cosa. Beh, Sì, ah beh, certo, davanti ad un sacco di persone andiamo giù, in un posto che poi scoprirebbero tutti gli altri. Ora, in che modo vuoi renderci invisibili a queste persone, se hai un modo per farlo? Creando una distrazione. Di che genere? Qualcosa che non comporti il panico più totale. Creando una distrazione che non comporti il panico più totale. Ora, stai mintendo? No. Allora. Avresti mentito alla mia domanda. Farai un'illusione, vero? Niente che sia permanentemente che danneggi permanentemente cose, persone, animali, eventi storici. A parte che persone e animali li posso guarire, quindi non sarebbe un problema. Sulle cose siamo d'accordo che non me la cavo con l'alchimia. Non danneggerò nessuna cosa, te lo prometto. Lasciamo fare ora, è una persona capace di raziocinio e... Ok. Quando arriveranno, se qualcuno rimane qua fuori, quando arriveranno gli altri, come li facciamo entrare però? Ah boh, io credo di aprire la porta e poi non so cosa succede. Per questo che preferivo parlare direttamente con la sacerdotessa, ci avrebbe dato lei il passaggio all'entrata. Comodo parlare. Allora andiamo dalla sacerdotessa, dai, andiamo a chiederlo. Ora, puoi fare in modo che le persone se ne vadano? Che prendano interesse in qualcos'altro? Certo che posso. Puoi farlo in modo che non comporti il panico più totale? Certo che posso. Meno divertente, ma certo. Anche quello che ti ho detto prima si riapplica. Congiunge le mani in forma di preghiera, sta per castare una spell quando sentite un urlo dalla sacerdotessa a quell'altra che dice: no, non qui dentro. Ora fa: ma non ho ancora fatto niente. No, no, stavo pregando. No. Vabbè, tanto abbiamo attirato la sua attenzione. Prego, andate. Salve, siamo di nuovo noi. Avete portato una cretina qui dentro. No. Io non so cosa stava per fare. Hai detto... Non mi fido particolarmente neanche io, effettivamente. Però, sembrava... Cioè, la sua chiesa venera... La sua è la santa chiesa, ok? Non so se avete avuto modo di discutere con lei di questo fatto. No? Vuoi dire no? Ok, è poco educato da parte vostra portare qua qualcuno che disprezza il mio culto. La gente che è ora disprezzi il suo culto. Esatto, ora. Le divinità non esistono. Io sono solo una dottoressa. Non mi sembra disprezzo, cioè, deve essere sbagliata la sua posizione, ma in ogni caso è disprezzare. Siamo qui per farle cambiare idea. Siamo partiti con il piede sbagliato. Avremmo bisogno di ritornare appunto nel luogo in cui siamo stati prima. Prima, giù. Lei no. Scale. Che palle. Non te la mangio mica sta chiesa di merda. Vedi, ha bisogno di conversione questa ragazza qui, quindi abbiamo tentato di... Non è dove volete andare che troverà la luce? Ma non penso gli interessi particolarmente la luce, però, again, io non rompo il cazzo a te, tu non rompo il cazzo a me, non è che venga a dirti di pregare. Signori, non lasciate che questi maleducati... disturbino la vostra visita alla più grande chiesa che c'è nel mondo. Venite, vi faccio vedere l'esterno. Ma non è la più grande. Sì. Dice a Lito di stare zitto e tipo di tira. Dipende come consideriamo questa chiesa. Cioè, se consideriamo la terrazza come parte della chiesa, è la più grande. Però... Vabbè. Vabbè, è come dire che Empire State Building è alto fino al pennone, è uguale. Esattamente, è proprio una questione di definizione. Sorvoliamo. E quindi lei fa uscire la gente e passa vicino a Mif e dice: sono sicura che sai aprirla anche da sola la porta. E prosegue. La stronza non entra, eh. Venite, signori. Ok. Oh no, non entrerò. Chissà chi verrà a fermarmi. Andiamo. Sono d'accordo con Ora, for once, andiamo. Io non so quanto volete avere contro la sacerdotessa. Una divinità in più, una divinità in meno al momento. L'ho aperta. Ed effettivamente. Beh, allora. Bene. Serve magia o è solo sì, movimenti pratici? No, è una lock, come si dice in italiano, una serratura magica. Se inneschi la roba si apre ed è a tempo, tra qualche secondo si richiude. E è qualcosa che posso fare anch'io? Come te la cavi con la teurgia? Piccolavo la pietra io. Ti servirebbe qualche anno di pratica. Probabilmente. Me la cavo io con la teurgia. Allora. Però serve che qualcuno rimanga fuori per aprire la porta quando arriveranno gli altri. Volete che rimanga fuori? Ma può rimanere ora con me. Tipo se bussa alla porta la sentiamo dall'altro lato. Dipende quanto scendete. Dal tempo. Quello fatto, cioè la scalinata è lunga. Non abbiamo degli esplosivi. Penso sia un po' esagerato. Stai volando ora? Scusami. Non togliermi il palcoscenico. Mi fai saltare la porta. No, è per richiamare la nostra attenzione. Si accende una candela perché non ci sono ancora le lampadine. Puoi rimanere fuori con me ora? È buio là sotto, hanno bisogno di qualcuno che faccia luce. E io so fare luce. Ora. Tu devi spendere dei soldi per accendere la luce, io no. Ora la mia luce è dentro di me. Qua. Che cos'è questa sessione? I neuroni mi stanno abbandonando. Non è importante, serve qualcuno che possa aprire la porta, che rimanga fuori. Se vuoi rimanere tu, Mif, io ti tengo compagnia. No, più che altro non vorrei far arrabbiare la sacerdotessa. Ho paura di quella donna, ho paura di quella. Oh no, la dea delle monetine, mi tirerai i nichelini addosso. Ora, tu hai visto cosa è capace di fare la gente, cosa hai imparato tu a fare, perché prendi in giro una persona del genere? Perché la sua divinità è la divinità dei soldi, è la cosa più stupida che esista. Oh, non hai mai sentito la storia di Remida? Se sapesse fare una cosa del genere? È la cosa più inutile che esista, io sparo laser dal culo! Non direbbe così. Non direbbe così, però... Sparo laser dalle monete. Ora, ti stai comportando... Una persona del tuo calibro, della tua intelligenza, non dovrebbe comportarsi in questa maniera. Sono contro le superstizioni e lei le usa per guadagnare dei soldi ed è una cosa che non approvo. Mi avvicino ora. Ora. Abbiamo viaggiato per mesi con una persona che si definiva l'avatar del dio del tempo. Prego. E ha riavvolto il tempo e abbiamo perso tutti i ricordi di quello che è successo. Se è una battuta mi manca la punchline. Penso che la faccia degli altri tre sia tipo "twas not a battuta". Non è una battuta. Ok. Se siamo qua non è per giocare, è per avere altre informazioni. E per quanto l'idea non ti possa piacere, gli dèi sono una cosa abbastanza concreta. È questo che stavo dubitando. È delle persone come lei. Ma comunque, capisco il tuo punto. Pensi che se arrivasse la dea del commercio sarebbe completamente... Tanto la porta si sta richiudendo. Si sarebbe... sarebbe d'accordo con lei? Non lo so, non è un problema mio alla fine. Per questo dico che la gente come lei è... terribile. Non hai tutti i torti. Per questo non è che rispetto tantissimo la sua idea di tenermi fuori. Lo Dai, capisco. Prima che si chiuda di nuovo. Fede e culto sono due cose diverse, dopo tutto. Esatto. Come sono studenti di magia i vostri amici, se ho capito bene? Sì. Ok, avranno una certa forza magica. Quando sento qualcuno del genere, torno ad aprire la porta. No, anche se siamo in profondità. Quanto scende questa cosa? Tanto. Se mi accorgo che andiamo troppo in profondità, tornerò indietro. Senti una presenza magica su di me? Non... No. La sento su Adone, su Mif, su Lieto, sulla ciarlatana là fuori. Alcune persone che stanno qui intorno. Resto io fuori. Resto io con te. Ascoltate, andate voi, rimarrò io fuori ad aspettare gli altri. Sai fare teurgia? Devo fare teurgia, master. A livello per aprire la porta, sì. Sì, certo. Ok. Andate voi, insomma, vi ho detto comunque le informazioni necessarie per risolvere il puzzle, quindi fate voi. Lieto, mi fa guarda Lieto e fa, io spero che tu ti ricordi tutto. Lieto fa tipo wink wink. 6 ore e 9 minuti, ci ricordiamo tutto. Esatto. Nel caso facciano domande, siete, ci avete anticipato per curiosità, pura semplice curiosità. Esatto, curiosità. Beh, in bocca al lupo, Adone. A dopo. Vedi Adone con la lacrimuccia. Però Luce. Ma che cazzo cos'è quella? Perché ci sono degli assi di ferro? Senti la voce di Adone da giù, che esce fuori, tipo rimbombato. Cosa cazzo è quella cosa? Perché ci sono degli assi di ferro che escono dal pavimento? No, c'erano le meridiane del dio. Sì, le meridiane, sì. Vabbè. Questo posto è strano forte. Non hai visto il piatto principale? Arrivate fino alla sul corridoio e dice: sì, riesco ancora a sentire Adone, quindi non c'era bisogno di fare quella cosa. Anche quando andrai giù per il buco. Buco. Ti indichiamo il buco. Cazzo, è lungo sto posto. Ah, vedo il tè. Ce n'è uno uguale dietro casa mia. Excuse me, what? Mif si gira lentamente. Cosa? Sì, ce n'è uno uguale dietro... Vabbè, casa di mia nonna. Praticamente mia nonna ha una casa nella periferia di Oclica. E da bambina ci andavo. E lì vicino... Oclica Est. Praticamente c'è il... Conosci Oclica? Vabbè, c'è il fiume. Ad est del fiume c'è il ponte della stazione del treno nuovo. A destra del ponte si vede passando questo coso cubico bianco. Beh, è identico a quello, solo che questo è ridotto male. Già, ci sei mai entrata? No, i miei nonni mi dicevano che era pericoloso. Bravi nonni. E cos'è? È il tempio del dio del tempo. Vi state avvicinando, no? State guardando. Esatto. Perché c'è un tempio del dio del tempo vicino a casa dei miei nonni? Un'ottima domanda alla quale non abbiamo una risposta. Ha senso. Bene. E... Giù per io? Vai, così vedi se senti Adone. Fa luce e illumina tutte le aree. Anzi, lei proprio prende, va, inizia a toccare i muri, fa il cazzo che vuole. Che noi la seguiamo. Ok. Quindi È esattamente come ve lo siete ricordati. Oddio. Cosa ne pensi ora? Lo so. È molto inquietante. Già. E... Vai. No, cioè... E le indico l'altare e... Lì dovremmo mettere la risposta, probabilmente. È diviso in quattro. Diviso in quattro. Prova a bussare. Sembra essere concavo. In nessuno dei quattro punti. L'avevi già vista una cosa del genere? No. Io? No. Guarda Alieto, guarda Mif. No. Beh, non... No, l'unica cosa è che ci sono le... sono le conchette sui lati. Sembrano essere... ricettacoli per qualcosa. Ah, ok, ti dici che sono contenitori. Sì, sembrano essere dei contenitori. Contenitori per il nostro sangue, forse. Your guess is as good as mine. Only one way to find out. E Lieto ci infila un... si taglia una mano e ci infila un po' di sangue. Dove infili il sangue? È nella prima di fronte a me. Se ti ricordi, ce n'era. Ci sono quattro simboli che corrispondono alle quattro bocchette, chiamiamole. Una mezzo nera. Piena, mezzo vuota. Ho bisogno di prendere il cazzo di coso perché devo cercare il libro delle risposte. Che è nel libro delle risposte che ci sono le risposte, altrimenti non scriverebbe il libro delle risposte. No. Ok, quale scegli? La clessidra? Fammela scegliere con un minimo di criterio. E la clessidra con le due lineette in mezzo. Ok. Nel disegno sarebbe quella dal lato freccia. Lato freccia di... Sì. Ok. Quando spargi una goccia di sangue su questa cosa, il sangue viene assorbito dalla pietra e compare sopra questa cosa qua una linea, che tipo un ologramma, per capirci. Okay. Una linea rossa. Figata. Ok, abbiamo scoperto come si attivano, vedi? Siamo passi vicino. Adesso dobbiamo fare in modo. Sentite dei rumori. Ricordano il meccanismo di un orologio. Click, clack, clank, clank, clank. Non si capisce da dove vengano. Non c'è un posto da cui possono venire. Adesso... Quindi in teoria io ho riempito la clesside di una settimana. Se non avevamo letto male la guida. Questa è la clessidra del... Ora ti guarda e dice... La risposta non doveva essere 6 ore e 9 minuti. Esatto. Quindi questa è quella sbagliata. We are way too... Cosa pensi che succederà? I rumori che sentivate si fanno sempre più lenti. Clank, clank. Clank, clank. E il sangue non c'è più. E usciamo e rientriamo. I rumori si fermano. L'ologramma che era comparso cade come una lancia che si schianta sul cubo di pietra. E Lieto avvizzisce. In che senso? Sembra marcire dall'interno. Ora? Eh sì, non è normale sta cosa. Che Sento dolore o è una cosa... È come se fossi invecchiato di tanti anni in un momento solo, in un istante. Gliela prendo tutta nelle ginocchia, quello che si dice. Il gruppo della strega. Sì. Beh. Ok, riusciamo in qualche modo a mettere 6 ore e 9 minuti? Sì, io dubito di sangue e espansione per questa stronzata a questo punto. Se seguiamo le istruzioni ci servivano 6 ore e 9 minuti, giusto? Sì. 6 ore. Quindi 6 gocce su quella riempita a metà. Perché dovrebbero essere 12 ore, giusto? Quindi 6. E poi dove cazzo le ricambi? Quella metà, no, quella metà sono i minuti. Ah. La metà sono i minuti. Ho 6 in quella metà. And, no, 9 in quella metà sono 9 minuti. 9, esatto. No, allora, e le ore quali erano loro? E le ore in realtà sono la lineetta. Cioè, la giornata. Però deve essere 6 ore. Non è che la lineetta è un minuto? No. Infatti. La lineetta è 6 minuti. Hai ragione. Non è che una lineetta è 5 minuti, ci sono 5 pallini. Cioè, ora che ci sta depistando volutamente. E io questa cosa... Io ho bisogno di una voce da campo. E dei... Ti ricordi? Cosa? L'enigma. Però io non sono lì. È una voce da campo. Sono le energie che raggiungono Biff. Ok, qual è la domanda? Don't metagame. No, ho bisogno di un suggerimento perché io non ci sto capendo un cazzo. Cioè, io volevo rimanere con Nibel perché non... Tipo sì, Biff torna indietro e va a prendersi Adone. Sono serio. Biff torna indietro e si va a prendere Adone. Ma... Cioè, dai, era facile, secondo me si risolve. Vabbè, vai. Miff sale, mentre voi tre rimanete lì. Ora ti fa un check-up completo, lieto, intanto che loro si radunano. E ti dice... Credo che starei bene, cioè di fisico stai un fiore. Ti sono venuti i capelli bianchi? Non dappertutto, non dappertutto, qualche ciuffetto. Sono invecchiato o è solamente... Non ho una magia per capire se sei invecchiato. Ha delle rughe in viso? Ma sì, cioè, nel senso... L'aveva anche prima. È giovane, quante rughe ci avrà mai? Ma non è invecchiato di 70 anni, ok? È un po' invecchiato male. Male. Ok. Vabbè, mi fa piacere questa cosa qua. Dobbiamo vedere se il medikit risolve questo problema. Bevi quermi anche tu, se non ricordo male. Se vuoi posso fare una prova. Direi di sì, dai. Ok, tirati su. Dai che ce la fai, dai. Ti dà un colpo fortissimo nel petto, cioè proprio ti manca il respiro per un paio di secondi. Quella sensazione tipo alle ginocchia che avevi svanisce, quindi ti si rigenerano i tessuti, eccetera, e ti senti meglio. E lei ti guarda invece perplessa. Ok, direi che ha funzionato, mi sento meglio. Ti sono rimasti i capelli un po' bianchi. E vabbè, me li coloro, male che vada. Sì, infatti. Esatto. Credo che esista il tuo colore di tinta in vendita, l'ho già visto. No, è il meno dei problemi, mettiamolo. Questa era per Rox, ma è andata sta battuta. No. Ritornate a voi. Adone, sei rimasto fuori, ti sei goduto il panorama, cioè l'esterno di questa cosa qua. dei turisti ti sono passati a fianco chiedendoti se sapevi cose del tempio. No. Perfetto, ci sta, ci sta. Scusatemi, no. Ah, non c'è problema, non c'è problema, grazie lo stesso. No, niente, divertitevi. E ti sei un po' annoiato. Finché a una certa la porta alle tue spalle non si è aperta. E da essa emerge Mif. Siete stati veloci. No, c'è bisogno del tuo aiuto, Giù. Ah, Dimmene. ovviamente no. E Mif mette una mano avanti. Attenzione, che c'è in gioco il tempo di tutti noi, nel senso che bisogna mettere il sangue nell'altare, ok? Se sbagli, invecchi. Allora, io Quindi fa giusto, io rimango qua sì, con anche Nivea. perché io vengo giù, ma il problema è un problema se io invecchio. Mi fa tipo bocca, giusto. E convinci ora. Non so che ti. Vabbè, vado, ma aspetta, tu scendi con me adesso? No, no, no, no. Con Nivea. Chi è che apre la porta, se no? È diventata una maratona. Neanche a scrivere le tesi all'università facciamo così. Vabbè, andiamo. Grandissimo Adore. Adore, cammini nell'oscurità più completa, perché nessuno ti ha dato una cazzo di luce. Molto in lontananza, alla fine del tunnel, vedi che da un buco nel terreno esce fuori un faro e arranchi nella sua direzione. Che non vede all'interno che c'è Ora che sta continuando a guardare la testa di Lieto. Bene, Lieto. Ah, E ciao. c'ho i capelli bianchi, però per il resto ora dice che va tutto bene. Come lui. Come lui. Sì, vero. Com'è che sta Nibel? Cioè, guarda verso Nibel. No, no, no, no. Io sono È svelto. mettente, cioè va, Ah, indica là. ah. Come Ah. te, Adore. Vaffanculo. Vabbè. Però sì, il sangue funziona e a Ehi, questo punto cosa. direi che è il momento di provare. Continua a sbagliare a premere sulla carrozza invece di Fate. Cos'è che avete fatto esattamente? Ho scoperto che effettivamente si attivano mettendo il sangue nelle conchette. Perfetto. Solo che l'ho scoperto con la conchetta sbagliata. Ah, ok, ma non avete provato una combinazione specifica, hai solo versato del sangue a Dopo caso? essere invecchiato, c'è stato un attimo di alto sulle sperimentazioni. E comunque dovrebbe essere la conchetta dei giorni e quella a sinistra, in teoria. Ho fatto lo stesso errore. Fanne. Allora, adesso ve lo chiedo a voi. Quindi, a Lieto dov'è che ha messo il sangue? In Sulla quella con clessidra le quale? linee. Quella tagliata dalle linee. Ok, e basta, ha messo una goccia di sangue lì. Yes. Quella dovrebbe essere quella delle settimane. Quella dei giorni Ok. dovrebbe essere quella bianca piena. Se il bianco è. Guessing che il bianco rappresenta il neo, l'immagino. Allora, scusatemi, prendendo la clessidra, allora, con le tre clessidre, quella grande, grossa è dei mesi. Poi abbiamo settimane, Giorni. E giorni e la clessidra ok. mezza sono i secondi. No, i No, i minuti. secondi è la lineetta, via. Cioè, Abbiamo detto minuti, quella mezza il e mezza. minuto è la linea. Allora, fermi. Non ce la faccio, scusate. Cazzo, non posso spostare Faithless, Lo altrimenti l'avrei spostato. guardo sul cellulare. Allora, quindi abbiamo. Vieta l'accesso alla carrozza. No, no, lascia stare, lascia La stare. tolla le Dove cazzo è linee. Faithless? Allora. Quindi scusami, questa qua è dei mesi, cioè mesi, settimane, giorni. Uno di questi probabilmente è sbagliato. Diceva. Ok. E siamo Quella delle tipo. settimane sembra essere corretta, cioè, Sì, la cosa di cui siamo più convinti sembrava essere quella delle settimane. Effettivamente avrei potuto non attivare, però resta fan in debt. Ok. E la clessidra nera sono 24 unità. Ok, quindi schifo, se non mi ricordo male. I giorni tecnicamente. Cioè 24 ore è un giorno, quindi prendiamo che la dici che la clessidra corrisponde alla somma della roba che c'ha sopra. Kinda. Yes. Perché altrimenti, cioè, 24 ore, cioè, se io devo intraprendere che una clessidra nera equivale a... Cioè, scusami, una clessidra nera equivale a 24 ore, 24 ore sono un giorno. Ok, l'alternativa è che... Che? Beh, che non è... Cioè, non è 24... È 1. Di 4 le ore è un giorno. No, cioè, o equivale la clessidra alla somma di tutto quello che c'ha sopra, o a uno singolo di quello che c'ha sopra. E quindi in questo caso dovremmo considerarli come 24 giorni? No, visto che stia dicendo che sono 5 ore? Perché l'ultima sicuramente è quella dei mesi. Ok. O è uno. Quella a fianco c'ha 7 sopra e uno sotto. La clessidra è 7... 7 sopra e 2 sotto. No, è una clessidra. Ah, no, pensavo parlassi delle lineette. No, no, no, le lineette non le stavo guardando. Sto rullando ora. Che potrei essere anch'io, perché ormai ho dimenticato la soluzione di questo cazzo di puzzle. Cioè, ce l'ho scritta, ma non mi ricordo come ci si arriva. E... Sì, cioè che una clessidra è un oggetto sopra. Ok. Sì, è un oggetto sopra. L'oggetto sopra, quindi siamo essere d'accordo che sono 5 bastoncini. 5 bastoncini. Ogni bastoncino è da 5 unità, ogni unità è da 12. 12 per 5 è 60, fa un'ora. 60 per 5 o semplicemente un... No, dico, ogni bastoncino sono 5 pallini. Ogni pallino sono... 12 clessidre. 12 clessidre. Non so. Però se le clessidre 12. Dimezzate sono minuti. Fuck you. Le clessidre dimezzate. Possiamo fare 6 ore e 9 minuti. Con le clessidre dimezzate. No, ferme. Le clessidre dimezzate intendi quelle con le metà? Metà e metà, sì. Metà bianco, metà nero. Io non posso partecipare, sono... Triste? Sono triste. Ma scusami, ma Nibel era su con me? No, dov'era Nibel? Dov'è? Sì, era di sopra, sì. E allora mi fa fa Nibel, vuoi scendere anche tu? Mi aspetto io. No, faccio da guardia qui. Sì. La morte? Mi fa che fa? Sei sicuro? Ti ricordo che posso addormentare tutte le persone in un raggio incredibile d'azione. No, tranquilla. Sono sicuro che si ricorderanno che manca la clessidra delle settimane. Ho visto che ti guarda con le labbra tipo assottigliate e le mani incrociate. Mm-hmm. Ho anche io fiducia allora. Stiamo qua finché non lo risolviamo, Non me ne frega se domani dovete andare no, a lavoro. Ma dico, è un... Cioè, sicuramente quelle dimezzate sono un minuto. Per arrivare a 6 ore e 9 minuti sono... 6 per 60, 360, più 9, 369 gocce di sangue da versare... ...a dei minuti. Yes. Lieto? Io, raga, non ce la farei a stare lì a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cioè, mi sono detto, abbiamo visto che compare la scritta che segnala che numero siamo arrivati. Dici quello che è un 1, Sì. Allora, fermi. Quindi sarebbero... Io ho bisogno di scrivermi sta roba. Sarebbero 12. Porca troia, cosa è successo? Ok. Allora, mannaggia il signore. Allora, abbiamo quindi 12 gocce sulla clessidra grande, quella vuota, totalmente vuota. No, non ho capito perché, cioè 12 sono... No, che cazzo sto dicendo? 12 gocce sulla clessidra vuota, sono un anno intero. Infatti noi cosa dobbiamo mettere? I giorni? Devi mettere 6 ore e 9 minuti. Ma non dobbiamo mettere tutto l'anno? No, la differenza. La differenza. Ah, ma va in figa, vabbè. Ok, non importa. Allora, se questo era mesi... Magari è modulare, cioè... Di anno in anno va bene lo stesso. Non lo so. Sì, va bene, non vedo perché no. Sì, ma tu piani, porco Dio, vabbè. Allora, dobbiamo mettere 6 ore. Mi sono perso di nuovo, non ce la faccio. Niente, devi mettere 369 gocce in quello della clessidra bianca e nera. Pezzette. Sto comunicando mentalmente attraverso i funghi la soluzione. Boh, cioè a sto punto, dai, rischiamo? Cioè, Adone dice, faccio questa cosa allora? Ok, credo che tu di tuo non possa versare quel numero di gocce senza morire, per cui ti guarisco. Ok, perfetto. mi raccomando, spero sia questa la soluzione giusta. Ora, sei sicura di non voler essere tu a versare sangue? Sarebbe un'idea migliore. Sì, ma poi chi mi guarisce? È una... Anche quello, vabbè, siamo in due, 185-1. No, non è. Spero sia quella giusta, perché se invecchio io è un problema. Ma sei così un baldo giovine? No. Lei lo sa della mia mano. Non mi ricordo. Ma no, invecchierà il corpo, non la non ci pensare, Adone. Sanguina e prendiamo un problema alla volta. Su. Io ti guarisco. Va bene, si prende... Non lo so, avrà qualcosa di appuntito, si ferisce. E il coltello. Sì, esatto. Perché andate in giro con i coltelli voi? Certo. Posso dire una cosa? Questa mi sa che è l'unica situazione in cui tagliarsi così la mano ha un senso. Perché devi farne un botto. Perché devi far gocciolare la goccia così, quindi... Io poi vi farò una scenetta meme. Ora facciamo sta cazzata qua. La scenetta meme e poi chiudiamo la sessione. Spoiler. No. Noi stiamo qua. Se non è quella giusta, piani, se no andiamo avanti. Tagli. Versi la goccia. La goccia. Come si dice? Coibenta. Non so qual è la parola giusta. Si inibisce di sangue. L'altare. E compare una linea. Si dice: vedi, la prima è andata. Dai, con la seconda. Io ti guarisco. Okay. Due linee. Bingo. Tre linee. Quattro linee. Quattro linee barrate. Cinque linee. Sei linee. Sette linee. Otto linee. Ci vorrà tutto il cazzo di giorno. Continuate finché non arrivate a... Ma soltanto che devo fare 369? Sì. No, come 69? Sì. 69. Non c'è mica, non dare retta alla voce fuori campo. Ok. E... cosa dobbiamo fare ora? Intanto voi sentite un rumore meccanico di robe che girano, casini, eccetera, che aspettare? Inizia a rallentare quando smetti di sanguinare. Lei ti tampona il braccio, ti guarisce la mano con la luce. E sì, ma sono certa che questa volta funzionerà alla perfezione, perché non dovrebbe. Il rumore rallenta e si ferma. E beh, dice, ora è già diverso da prima, no? Cioè prima va fatto un'altra cosa, o sbaglio? Non è invecchiato, Adone. Sì, a parte quello, però in generale prima era successa un'altra cosa, no? Cioè tutti quei cazzo di segnini di merda in alto prima sono caduti sull'affare, no? Sì. Ora non lo stanno facendo, quindi c'è qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso. Oh, come gocce di pioggia, mentre lei dice sta cosa, iniziano effettivamente a cadere sull'altare. E sono una miriade, durano tantissimo questa cosa qua. L'altare diventa completamente rosso, rosso fuoco, e la luce viene irradiata dal cubo, la luce che prima è rossa, poi diventa bianca, poi diventa azzurra. Tutto il tempio, no, non mi fa quello che voglio. Devi mettere la loop, loopata. L'ho messa loop. Lol. Ah, sai cosa faccio? Per questa qua... Ma nella tastierina l'hai messa loopata? Sì. Oh, che palle, si è incastrato. Voglio mettere Era, se funziona, per fare la mia scenetta di merda. Per due motivi. Il primo è questo. E il secondo è... questo. Ah, Dio porco. Niente, era solo per un periodo, per la trial, quella cosa lì. Versione dark. Il cubo inizia a irradiare tutta la stanza di luce, voi venite quasi accecati. I muri che costituivano le quattro pareti di questa cosa si riparano completamente. Le incisioni che c'erano spariscono, i muri diventano perfettamente bianchi e marmorei. Se vi ricordate, l'intera struttura era leggermente collassata in una direzione, viene raddrizzata e messa perfettamente in bolla. Dall'entrata la luce forma una sagoma umana, scura, oltre la quale la luce si ferma chiaramente, e poi la luce si placa, e è come se foste in un cielo illuminato dal nulla, bianco e con dei riflessi azzurrini, ed entra all'interno un uomo che per voi non è per niente familiare, alto circa 1,76 m se non sbaglio, capelli gonfi, azzurri, grigio azzurrino, cioè grigi ma con i riflessi azzurri probabilmente per la luce che c'è intorno, con delle linee rosse sugli occhi, enorme, muscolosissimo, proprio molto largo, più basso di Lieto ma molto più muscoloso, con delle braccia enormi, a petto nudo come era Cronos, però questo indossa una specie di gonna, e ha dei tatuaggi anche sul petto. L'uomo si fa strada all'interno della struttura e vi parla dicendo: ho vissuto così tanto tempo che fatico a quantificarlo, ma non ho mai trovato qualcuno risolvere un mio enigma in un modo così stupido. La sessione. No. Io adesso prendo Arva, gli sparo nei coglioni, gli mangio il cuore, divento io il nuovo dio del tempo. Che cazzo vuol dire? Troia che non sei altro, bagascia.